In diretta dagli studi di Radio Panorama, Termini Imerese, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda. Bene, rieccoci qui. Dopo una settimana ci troviamo subito in questi studi di Radio Panorama. Ciao Andrea. Ciao Antonio. Si sente che è luglio, c'è un po' di caldo. Allora, prima di iniziare diamo subito i nostri contatti. Allora, ci trovate all'indirizzo www.facebook.com/londainonda con la L. twitter.com/onda in onda senza la L, ovviamente. Invece ci trovate in streaming audio su non c'è nulla di ovvio nella vita, quindi non dire ovviamente. Hai ragione. Streaming audio su radiopanorama.info.eu e poi sms al 380 76 90 204. Vuoi ripeterlo, Antonio? Sì, certo, sms al 380 76 90 204. Va bene. Allora, oggi abbiamo un po' di ospiti importanti in tanta ciccia, tanta e ciccia. Per tenervi compagnia abbiamo pensato di dilungarci una mezz'ora in più, infatti sì. Oggi finiremo alle 21 perché vi spalmeremo gli ospiti... i testicoli, esatto, per un'altra, esatto, mezz'ora, esatto. Poi gli li mangeremo. Sono veramente tanti. Abbiamo Zibba, sì. Abbiamo Piotta, sì. Attenzione, Piotta, che anche no, canta... lo diciamo dopo quando lo lanciamo, giusto. Poi abbiamo i The Jackal che stanno presentando Lost in Google, per e chi non lo conoscesse andatelo a vedere. A vedere perché diciamo ne vale la pena, su YouTube una fiction creata dalla rete, perché esatto. In base ai commenti degli ascoltatori la sceneggiatura viene, vive viene, dai commenti della rete, tipo voglio vedere Caparezza spunta. Esatto, infatti hanno partecipato Caparezza, hanno partecipato Giacobbo, ma lo scopriremo, sì, insieme con loro. E poi l'onorevole Paola Concia. Qua ci vorrebbe l'applauso che non abbiamo, però lo facciamo noi. Perché, insomma, oggi tra l'altro ha presentato il libro Affini, su cui noi intervisteremo, sì, davanti alla camera. I miei primi 40 anni con i capelli bianchi. La vera storia dei miei capelli bianchi e 40 anni di diritti negati. Vabbè, hai fatto un mashup. Va bene, e abbiamo detto che ovviamente intervisteremo Piotta, che ovviamente è l'autore della nostra sigla. Ed eccoci qua con L'Onda in Onda, appunto questa era la sigla, la canzone è L'Esercito del Surf. Sì, l'originale è L'Esercito del Surf di Katrin Spack. Da lì, Piotta, in insomma, Sicilia, si dice che spacchi balate. Katrin Spack è d'altro una bella gnocca, diciamo, sì, diciamo al che tempo. Ancora sa la sente, come dico a Roma, esatto. Sa la sente. Sì, è una bella gnocca. Questa è una gran notizia, sono contento che tu l'abbia presa, perché direi che è giusta per aprire la allora, ed è vera. Sì. La cosa bella è che non è tipo tutte le notizie che leggiamo sono vere. Oddio. No, è vero. Noi le comproviamo. Questa è la fonte Affari Italiani. Che però, diciamo, non è proprio una bellissima fonte. Non è proprio Corriere della Sera, però sì, dai. Però io c'è. Voglio sentire Massaro che legge. Lo so. Sì, infatti... Ti sentiamo piano, però. Mi senti piano? No. Un po'. Ma non lo so, forse è lui che si è abbassato la voce, sì. Puzzava troppo, non si lavava mai, per questo ho ucciso e fatto a pezzi mio marito. E mi pare anche giusto, che ci sono degli odori insopportabili. Ma dove può essere successo? Questo? In Russia, ovviamente. Famosi per queste cose incredibili. A Stavropol. Ma perché? Ridilo. Sono sempre queste notizie. Stavropol. No, è dopo Stavropol. Esatto, la R è dopo. Un 35enne di Stavropol. No, io non ce l'ho. Perché poi ha detto 335enne, perché la R doveva prendere. non ci ride quando sono queste. Un 35enne di Stavropol in Russia è stato ucciso e fatto a pezzi dalla moglie perché puzzava troppo. L'uomo si rifiutava di fare il bagno o la doccia da mesi e la moglie di 26 anni non riusciva più a sopportare il suo odore, a suo dire nauseabondo. Lo aveva pregato più volte di porre rimedio alla situazione, ma stando a quanto emerge dalle indagini, emerge dalle indagini, lui non aveva mai preso in considerazione le richieste sempre più prive di speranza della giovane moglie. E a un certo punto la donna non ce l'ha più fatta e l'ha colpito due volte alla testa con un ferro da stiro, poi l'ha strangolato. Proprio l'omicidio casalingo. Con un cavo elettrico. Siamo stati tutte roba domestica. Cavo elettrico. Pezzi con il coltello del pane. Spargendone i resti nel bosco di Frico. Qua sembra che inizi una fiaba. Arrivano gli gnomi nei dintorni della loro casa. Un gnomo armato di ascia, come mistero. Ricordiamolo. Insegna. Se non lo conoscete, anzi, cercate la triste storia dello gnomo armato di ascia. Di cui noi vogliamo ricordarlo con quelle immagini in cui si aggira nei boschi. Ucciso da un gatto. Va bene, quella è un'altra storia però. Quindi questa donna ha pensato bene: tu non ti lavi, io ti scanno. Esatto. Tu, quindi la morale di questa favola è che tu avresti potuto uccidere un tuo amico che, se ti ricordi, anni fa entrava a casa tua e lasciava la scia. La morale è per i mariti: fatevi il bidet. Fatevi il bidet. Non si lavava soprattutto con questo caldo. Esatto. Ma in Russia, tra l'altro, credo ci sia comunque caldo, anche se siamo in Russia in questo periodo. Ma sudano, guarda, anche lì le incinaglie. Oggi fa talmente caldo che Berlusconi si ricandida. Che è vero, purtroppo. Io pensavo fosse una tua battuta, invece è vero. L'ho scritto su Twitter, però era un hashtag e oggi è uscito fatalmente caldo che anzi vi invitiamo ad andare su Twitter che ora è sceso, purtroppo dobbiamo farlo risalire questo hashtag fatalmente caldo che va bene, che il mio condizionatore ha chiesto l'aria condizionata. Sì, l'ho letto anch'io. Va bene, allora ci ascoltiamo un pezzo e poi restate con noi perché subito dopo ci sarà con noi Zib. Bodies drop, trying to make a fortune. Dancing with no top, trying to stick my fork in. One on the block, then you gotta put your work in. Cause this concrete's too cold to be walking on it. Till he wake up in the morning. Magic work, O's disappear. Smoke got my eyes blurred, but my vision clear. Hot head, but it's concrete cold. Titanium, bitch, I never fold. Never judge a skin, boy, you judge yourself. You ain't gotta help me, nigga, you help yourself. They got their head out, I don't know what they told them. We tell them I'm Lamar, I don't own them. I be fishing for sharks, they can't breathe out the water. I take your toys apart and put you out of order. This concrete's too cold. Ed eccoci tornati qui in diretta, l'Onda in Onda. Abbiamo già in linea, l'avevamo annunciato prima, Zibba, anzi gli diamo subito il benvenuto. Ciao Zibba. Ciao. Benissimo. Ciao. Lui ha staccato. Se n'è andato. Proviamo e non ritorna più. No, proviamo a richiamarlo. Cos'è? Facciamo, iniziamo a parlare di lui prima di intervistarlo. Ma sì, dai, parla un po' di Zibba. Allora, Zibba, mentre lui si ricollega con noi, o meglio, il nostro regista bravissimo, il Brum ha detto, si ricollega. Nel 98 forma con Andrea Balestrieri la band Zibba e Alma Libre. E nel 2003 pubblicano il primo disco, L'ultimo giorno, che gli vale la conquista del palco del concertone del primo maggio di Roma, oltre a varie apparizioni TV. Nel 2006 pubblicano il disco Senza smettere di far rumore, in cui duetta con Tonino Carotone nel successo radiofonico Margherita. Dopo il successo di quest'album esce nel 2010 Una cura per il freddo. Mi dicono che è di nuovo in linea, allora diamo il benvenuto stavolta davvero, sperando che non cada in linea, a Zibba. Ciao Zibba. Ciao cari. Ciao ciao, benvenuto all'Onda in Onda. Benvenuto, allora, è un piacere averti. Mi sentivo anche prima benissimo. Ah, perfetto, no, invece c'era arrivata così che era caduta la linea, quindi però ci hai sentito, questo ci fa piacere. Allora, come stai intanto? Domanda, visto questo caldo. Io sto bene, sai, qui c'è tanto umido in Liguria, ma caldo caldo direi di no, da voi immagino ci muoio. E da noi ci sono sì sui 40-44 gradi in certe città. Sì, si sta un po' maluccio, devo dire, sì. Sembra che abbiano aperto un mega forno in tutte le città, però sopportiamo. Sarebbe bene fare quattro passi sulla neve, diciamo. Ecco, qua c'è proprio la sviolinata, come il suono dei passi sulla neve. Stavamo arrivando proprio a questo, perché dopo l'album Una cura per il freddo, che ebbe già un clamoroso successo nel 2010, che ha portato sfiga perché c'è un caldo della Madonna. Sì, esatto, quindi ti chiediamo di fare un album sul caldo, così magari arriva il freddo, magari sono sempre antitetici, diciamo. Allora, parlaci di questo nuovo album, invece dici già qualcosa tu, poi noi abbiamo alcune domande da farti su come il suono dei passi sulla neve, già da questo titolo molto romantico, molto poetico. Beh, intanto ti racconto il perché di questo titolo, che mi fa piacere. Con piacere, assolutamente. Abbiamo scelto perché il suono dei passi sulla neve poi in sostanza è quasi un non suono, no? Quasi non esiste. Sì. E quello che voleva comunicare questo titolo è che forse in questo momento ne abbiamo bisogno di un non suono, c'è un po' di silenzio. Sì. Perché forse abbiamo bisogno di guardarci un po' dentro, di ascoltare un po' di quello che ci sta attorno, di ascoltare un po' di più forse anche noi stessi, i nostri sentimenti, il nostro cuore, insomma quello che veramente vogliamo dalla vita. E quindi ci pareva ottimo avere un pretesto per poter raccontare di questa cosa, abbiamo scelto questo titolo. Bellissimo, che io trovo veramente delizioso, sembra di aprire un libro oltre che la copertina di un disco, perché alla fine sono entrambi i modi per comunicare che io adoro personalmente, sia tanto la scrittura quanto la musica cantata, che poi nasce da uno scritto che diventa canzone. E, senti un po', io sono un fan dei New Trolls, quindi devo per forza chiederti con Vittorio Descalzi com'è stato collaborare per te? È stato bellissimo perché lui è veramente uno dei grandi maestri della musica italiana. Assolutamente. Un autore eccellente, strepitoso. Ma è capitato tutto per caso. L'anno scorso ho suonato ad un concerto prima di lui e lui mi presentò sul palco come il suo cantautore preferito. Quindi con grande commozione. E cioè, praticamente tu le gambe facevano, insomma, la gelatina, non potevi salire neanche sul palco all'emozione. Esatto. Sì. Abbiamo cantato insieme un brano di De André e poi dopo io ho fatto la mia esibizione. Siamo rimasti in contatto e nel momento in cui io stavo finendo il disco l'ho chiamato perché avevo questa canzone che si intitola Un Mema, che in dialetto ligure vuol dire sia il mio mare che il mio male. Ah, ha un doppio senso. Sì. Esatto, ho scritto questa canzone e ho chiesto a lui un aiuto per scrivere il testo in genovese, e quindi dopo che l'ho scritto sono andato da lui a farmelo correggere, l'abbiamo cantata insieme ed è stato molto commovente. 4 giorni fa al premio Bindi io dovevo essere lì, avevo già scelto di cantare anche questa canzone e a un certo punto lo vedo arrivare, si è messo al pianoforte a coda, l'abbiamo fatta insieme, è stato un regalo enorme. Brividi, assolutamente certo. Brividi. Senti una cosa, volevo chiederti, c'è una canzone che secondo te, a parte che secondo me sono tutte belle, ma secondo te c'è una canzone che rappresenta al meglio il disco, anche se è un po' come chiedere se hai un figlio preferito o roba così, è una domanda non domanda, però te lo devo chiedere, c'è una che in particolare quando sai che stai per attaccare a suonarla dal vivo o quando la incidi ti dà un qualcosa in più? Ma guarda, in realtà va molto a momenti, ci sono delle sere che preferisco cantare una canzone, delle sere un'altra. Credo che una di quelle che rappresentano di più il disco sia proprio quella che dà il titolo a la traccia numero 2. Esatto, anche se poi in realtà non è una di quelle che mi piace di più cantare dal vivo, però rappresenta abbastanza il nuovo mondo, no? Quello che c'è diverso in questo disco rispetto al precedente, c'è un po' di elettronica però molto educata, sì. Ci sono questi suoni acustici, ci sono le chitarre elettriche che stanno abbastanza giù, che stanno un po' in sordina, però fanno delle cose molto carine, e c'è questo mio modo di cantare doppio, cioè le note basse come le note un po' più acute, quindi rappresenta un po' di più musicalmente il disco, magari un po' meno a livello di poetica. Ecco, ci sono brani come Asti Est, quella che ho cantato insieme a Finardi, sì, che rappresenta di più. Altra gran collaborazione con Eugenio Finardi, complimenti. Sì, grazie, con Eugenio è stata una meraviglia, perché da prima ho collaborato con lui scrivendo un brano per lui che è nel suo ultimo disco, e poi abbiamo fatto questa cosa insieme un po' folle. Stiamo ascoltando in sottofondo Nancy, che invece ha collaborato, con cui ha collaborato Roy Paci. E chi è Nancy, Zibba? Nancy è una persona che esiste, in realtà il nome suo non è questo, ma il nome è un omaggio a Fabrizio De André, perché ho scritto questa canzone mentre stavo facendo il musical dedicato ad André, che mi vedeva protagonista lo scorso All'ombra dell'ultimo sole, sì. Esatto, e ho voluto omaggiare Fabrizio scrivendo questa canzone e dandogli il titolo di una sua storica canzone. Ma in sottofondo, scusa, ci sono degli operai che stanno lavorando? Perché sentiamo dei rumori ogni tanto. No, in realtà siamo ad un soundcheck, perché iniziamo a suonare fra qualche ora. Ah, fantastico. Dove siete stasera? Siamo a spiaggia ad Albenga, davanti all'isola Gallinara. Allora, chiunque si trovi nell'isola Gallinara vada subito a nuoto con tanto di tovaglia al seguito e vada a vedere se può in concerto Zibba. Ma più che altro, Zibba, dove ti troveremo live quest'anno? Beh, saremo un po' in tutta Italia, in realtà giriamo un po' ovunque, purtroppo ci sono meno date al sud quest'anno dell'anno scorso. Ah, male. Ma ci sono diversi problemi economici. Quest'anno crisi un po' per tutti, quindi tanti amici del sud ci hanno chiamato dicendoci che non potevano addirittura fare i festival e le manifestazioni. Questo ci ha dato un grosso colpo al cuore, perché ci spiace soprattutto che l'arte e la cultura siano sempre alla fine. Vabbè, ti aspettiamo allora più presto, appena sì, la situazione migliorerà ti aspettiamo qui dalle nostre parti. Zibba, velocemente, il tuo album è un concept album, possiamo dire, sull'amore, no? Intervallato con diverse poesie. L'idea di un concept come ti è venuta? Ma è venuta da sé, perché a un certo punto ci siamo resi conto che avevo tolto dall'elenco delle canzoni del disco alcuni brani, e una volta guardata la scaletta ci siamo resi conto che tutti in qualche modo parlavano d'amore, avevano come tema, come filo conduttore questa cosa, e quindi è venuto da sé, è diventato un concept da solo. Bellissimo, devo dire, Zibba, quindi complimenti. Allora, come il suono dei passi sulla neve, acquistatelo. Ve lo consigliamo. Nelle o su iTunes o nei migliori negozi di dischi. E adesso ci ascoltiamo proprio Nancy, la prima traccia dell'album, Nancy. Ringraziamo Zibba per esserci stato così, per esserci venuto a trovare telefonicamente. Ti facciamo in bocca al lupo per stasera e alla prossima. Grazie, un abbraccio a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ok, grazie, ciao. Ciao Zibba, ciao. Ciao. Cosa che ha a che fare col mio cuore. La vita non è fatta da assi instabili. Ci vuole tempo, buoni chiodi ed una predisposizione ad imparare. Che per diventare un bravo attore bisogna saper fare anche la parte dello spettatore. Valuterò un cambio d'armonia. Amo la musica perché mi porta ovunque, dallo stesso ovunque mi riporta via. La stagione nascono le viole, e Nancy nel passare dei suoi giorni tutti i giorni muore. Le sfide nella cesta con il pane in testa, una canzone. Domani è già domenica. Oh oh, oh no no no no. Chiavi, e ora nessuna porta resterà mai chiusa. Che cosa sarà mai volersi bene? Che sforzo devi fare? Davvero non ti viene naturale? Lascia stare, che troverò problema e soluzione. In fondo siamo amore eterno e la mortalità non è che una maledizione. Valuterò un cambio d'armonia. Sarò lì sdraiato su ogni tuo sorriso, il fradicio di ogni pianto che ti porta via. La stagione nascono le viole, e Nancy nel passare dei suoi giorni tutti i giorni muore. Le sfide nella cesta con il pane in testa, una canzone. Domani E dopo l'intervista a Ziba ritorniamo sempre qui in diretta dagli studi di Radio Panorama a Termini Imerese. Sono le 18:52:46. Bellissimo. Devo dire che questa canzone è veramente molto bella, tra l'altro con il grande Roy Paci, sì, che abbiamo avuto modo di intervistare per una lunga ora quando venne qui a Termini per il Carnevale. In occasione del Carnevale 2000, quest'anno? No, l'anno scorso, 2011. L'anno scorso è stato veramente molto, diciamo, molto felice di essere stato intervistato da noi, perché c'era un nostro caro amico radiofonico che ne sapeva quasi più di Roy Paci, sulla vita di Roy Paci, quindi lui è rimasto. Aspetta, chi era? Era Totò Scaccia. Ah, il buon Totò. Lui ne sapeva così tanto. Salutiamo Totò Scaccia. Salutiamo, che ne ascolto sicuramente. Nostro... Salutiamo ovviamente tutti quelli che ci stanno ascoltando su Facebook. Ricordiamo, esatto, i nostri contatti, che sono www.vai. No, vai. facebook.com/onda in onda, twitter.com/onda in onda, e poi ovviamente su radio panorama.info ci potete ascoltare in streaming o visitare la nostra pagina, che al momento è ancora in costruzione, ma è radiopanorama.info/onda in onda. Soprattutto dico, intervenite sulle pagine sia Facebook che Twitter, come siete stati in tanti la scorsa settimana, perché vogliamo vedere crescere il numero di mi piace su, esatto, Facebook. Al momento siamo a 459, se arriviamo a 500 entro fine puntata, Andrea farà un giro nudo della piazza Duomo di Termini Imerese. Di nuovo, quindi... ne ho fatti tanti ogni settimana. Ah, vabbè, allora ti ubriacherai in chiesa a Termini Imerese. Per favore. Esatto, esatto. Non queste cose, no, per favore. Mi sembra che abbiamo una telefonata in diretta. No, non c'è più la telefonata in diretta. Andrea, sì, vede delle tre... Vediamo. C'è qualcuno forse in diretta che vuole mettersi in contatto, sì, con noi. Io anche provo a immaginare chi sia. Sì, secondo me è uno che deve sistemare qualcosa sul tetto. È possibile. Vediamo se riusciamo ad averlo in diretta. Intanto va bene, vi ricordiamo insomma di iscriverci. Ricordiamo a Jessica che attua te la metteremo. Sì. Che ci ha scritto, continua a scriverci, mettete. Continua a scriverci che vuole messa attua del sistema moderno. È un po' forte per questo programma, possiamo dire. Esatto. Però... tranquilla che la troverai se tu ascolti Radio Panorama. Ma come Rambo del paese? Rambo, sì. Rambo che ci scrive dei messaggi. A proposito, volete scriverci messaggi? 380-7690-204. Caro regista, era qualcuno che chiamava te per i fatti tuoi o uno che voleva mettersi in diretta? Non mi cercavano. Non ci cercavano, è importante, è roba tua. Va bene, allora ci ascoltiamo il prossimo pezzo per pochi minuti e poi andiamo in pubblicità, ma rimanete con noi sempre qui su Radio Panorama. Screaming.

d'estate. Ritorna il Malik. Lido balneare, piscina, vasca idro e tutti i comfort. E al calare della sera, aperitivi, piatti di frutta, drink e tanta musica. Prenota servizi diurni e tavoli serali allo 0921 420205. Malik, un sogno che dura tutta l'estate. Sul lungomare di Cefalù. Panorama. La ditta New System è lieta di presentare la nuova linea di tende da sole Tempotest Parà. Alcuni esempi in promozione giugno-luglio. Tenda modello balcone 240x260 a soli 240 euro. Tenda modello con cassonetto a 320 euro. Inoltre zanzariera per ogni esigenza di apertura, porta o finestra a 49 euro al metro quadro. E ancora tende alla veneziana a rullo, plissé e verticali. In più gazebi e ombrelloni per piccoli e grandi coperture. Soluzioni per coperture, pergole, infissi in alluminio, PVC e legno alluminio. New System di Purpura Gilberto. Showroom in via Maestro Pintorno 7779 a Cefalù. Contattaci o prenota un preventivo gratuito anche al tuo domicilio telefonando allo 0921 82 04 37. Eden Park Self Hotel. La vacanza su misura per te, per vivere il fascino delle isole Eolie, dell'isola di Vulcano, il suo mare cristallino, le sue calette da sogno. Eden Park Self Hotel, a Vulcano. Disponiamo di mini appartamenti e possibilità di campeggio, con colazione compresa. Per informazioni e prenotazioni, telefono 090 9852 120, www.isolavulcano.it oppure www.vulcano-eolie.it. Vulcano Isole Eolie, il paradiso. Non cercarlo altrove. Panorama. Musicalmente insieme, un programma tutto da scoprire con tanta buona musica, opinioni ed ospiti. In studio per voi, Vito Inchiappa. Ogni domenica dalle 9 alle 11. Naturalmente, su Radio Panorama. Sono le ore 19 e 5 minuti. Dietro fronte faccio dietro fronte, dietro fronte faccio dietro fronte. Taxi, chi mi dà un passaggio alla fine del viaggio? Viaggio, io corretto faccio come Susanna, messaggio. Hai mai fumato il crack? Dimmi un po' che sapore Chuck. Non dovresti mai chiederlo in un disco soprattutto. Chiedo scusa, fammi rifare l'attacco. Un bel dietro fronte, come quando domandi al boss della concessionaria quanto costa questo e poi in testa ripeti no. Ho lo stile che è demoniaco, sulla base come un maniaco. Lei mi fa tu sei mio, vieni con me come Tullio De Pis. Scopo ti, spoglio ti, squaglio ti, strappo la maglietta, andiamo in cameretta, lei apprezza, io la monto, lei mi fa scopami caparezza. Dietro fronte, oh, dietro fronte faccio dietro fronte, dietro fronte faccio dietro fronte. Taxi, chi mi dà un passaggio alla fine del viaggio? Viaggio, io corretto faccio come Susanna, messaggio. E mi schilla tanta roba, i miei soci girano con tanta droga. Metto tutto a posto, mi blocco, sposto, vai dietro fronte, c'è il posto di blocco. Ho fatto dietro fronte con la mia ragazza perché mi diceva stop lì no, perché i vicini ci vedono. Stiamo vicini vicini ma da dietro no. La prima volta che volevo tatuarmi ho chiesto ma fa male, mi hanno detto no. Ma quando sono arrivato al posto in sala d'attesa, la gente è tesa che era sotto shock. Ok, scappo sul primo tram in circolazione, vengo salito da 100 persone, sanno chi sono e dicono mi canta una canzone, mi scriva qua tuo nome. No, dietro fronte, oh, dietro fronte faccio dietro fronte, dietro fronte faccio dietro fronte. Taxi, chi mi dà un passaggio alla fine del viaggio? Viaggio, io corretto faccio come Susanna, messaggio. Dietro fronte, dietro fronte, come i mafiosi quando si pentono, come quando sotto casa ti aspettano in 50, tu arrivi con la banda e metti la retromarcia. Vroom, questo pezzo in radio fa boom, sono il più fresh, sono il più cool, tu non mi imitare o devi fare dietro front come al militare. Oh. Entri dentro e la vita ti affronta in campo, è tutto diverso da come sembra visto da fuori, a volte conviene fare dietro front. Dopo un'ora e 87 minuti di pubblicità, rieccoci ancora in onda su Radio Panorama, sulle frequenze 100. Chiedere consiglio al medico perché sono troppe. 107, 106, 4, 104 e 1. Ricordiamo che abbiamo due ospiti, una qui e una nell'altra parte dell'acquario, Serena ed Eleonora, è giusto dirlo, insomma. Esatto, sì. Si sono venute a trovare, sì, stanno qui con noi in studio. Sono io l'unico. l'unico cornuto qui abbandonato. La mia ragazza, che anzi saluto, che mi sta ascoltando. Salutiamo tutti. Va bene, allora ridiamo i contatti per chi si fosse messo in collegamento solo adesso. Quindi... www.facebook.com/londa in onda, twitter.com/onda in onda. E ovviamente il nostro streaming online su radiopanorama.info. O mandateci un sms sul 380-7690-204. My Wind. Non lo so, perché prima c'era una famosa storia col Wind. Senti, oggi mi sa che abbiamo un ospite che non ci viene a trovare da un po'. E che presenta. No, lui, sì, è lui. No, io, direi... io ogni volta che arriva qualcuno io dico no, perché ogni volta è un ritorno nuovo. Lo so, lo so. E io godo. Ancora gli ascoltatori di Radio Panorama non lo conoscono, ma per chi ci segue da prima. No, credo sia venuto una volta. No, non è mai. Questa immagine, guarda, che non mi è nuova. Non è mai venuto, fidati. No, fidati. Io credo di sì. Io vado a chiamarlo. Va bene. Vado a chiamarlo e presentalo tu. Ok, presentalo tu, mi raccomando, non ricordati di cosa fa parte, va perché bene, lui ci tiene molto e vado a chiamarlo. Tanto tutti gli errori li correggerà dopo in modo molto educato. Vado a chiamarlo e ci vediamo, cioè, presentalo, arrivo. Va bene, mentre mi sistemo anch'io i capelli, come fanno dall'altra parte dell'acquario, blu, sta per entrare un ragazzo che ha segnato la storia dell'Onda in Onda ed è un piacere riaccoglierlo qui tra noi. È, come si può dire... l'ultimo avamposto, ecco, già sentite sottofondo che piano piano sale, è l'ultimo avamposto del vero pieno comunismo in Italia. Lui viene da una città non molto grande, anche se lui non la vuole offesa, che è Regalcioffoli, in provincia di Roccapalungba, che cambiò nome diventando quasi africano durante un errore radiofonico circa 2 stagioni fa. E allora è con estremo piacere che do il benvenuto al grandissimo, unico, insostituibile Fidelio Cusimano. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Panorama. Lei parla da quando era piccolo così, vero? Sì, io quando sono nato ovviamente col pugno alzato e sono nato dicendo viva il comunismo e la libertà. Ah, quindi non è stato un parto podalico, un parto di mano. È stato un parto di mano, parto di villano, come si dice a Regalcioffoli. Io pensavo parto di mano partigiano. Lei si è scordato di dire ovviamente che io faccio parte del collettivo universitario Giancarlo Mattello. Ci tenevo che lo dicesse Giancarlo lei. Mattello, per chi non conoscesse questo personaggio storico. Ma chi non lo conosce? Ma... questo personaggio storico per cui sono stati scritti addirittura 3 libri in PDF mai pubblicati e tenuti nei computer, no? Di quelli che ma di chi? Di Stalin? Di computer di chi? Di Rosa Luxemburg. Ma perché inventò PDF? Il PDF? Ah, ma cosa, per cosa sta PDF? PDF non sta... dica quello che sto pensando. Partito della... perché veramente la faccio partito cacciare. Della funzione comunista. Non c'è l'altra C? No, è funzione comunista tutto attaccato. Per risparmiare come 20 euro del jingle. Sì, perché sì. Ovviamente il CCCP della vecchia... quello è il KGB. No. Sai che sta facendo? No, no, no. Ah, il CCCP. Sì. Non cantavano, ma erano proprio uno stato. Sì. Voleva risparmiare, faceva la spending review sulle parole. Esatto. Allora... anche voi avete contattato Orlando per la... scusi, che Orlando, cosa dico? L'ex sindaco di Palermo, Cammarata, per la spending review. No, allora, noi ovviamente siamo uno stato a parte, Regalcioffoli, io volevo spiegarlo prima. Sì, partendo dal collettivo Giancarlo Mattello. Giancarlo Mattello, questa figura storica del comunismo regalcioffolese, ucciso da poliziotti britannici in Polonia. Che ci facevano non si sa. Non cioè, si né sa, che ci facevano. Ma lui. È ovviamente un atto che è stato definito villano per il comunismo. Certo. Che si stava esportando proprio in Polonia. E lo stava esportando Giancarlo Mattello del Regalcioffoli. Noi, ovviamente, il collettivo universitario stiamo cercando di diffondere la voce attraverso la cultura del cinema d'avanguardia neorealista. Benissimo. E noi proiettiamo il nostro cineforum di Regalcioffoli. Ecco, arriviamo al punto. Dei film. Ora che c'è caldo, dove li proiettate? Sott'acqua? Allora, abbiamo affittato un'arena. Ah, un'arena enorme. Ma fa sempre caldo? Cioè, speravo magari un'area con aria condizionata, non so, un auditorio. No, no, è un'arena e abbiamo messo gli schiavi che con i ventagli, ovviamente, ventilano le persone. Scusi, a parte che ventilano, ma mi scusi, ma se voi siete comunisti, perché avete affittato degli schiavi? Sono schiavi dei gulag. Ah, a maggior ragione, ce li avete mandati e voi li fate tornare per ventilare, anzi per ventilare. Li abbiamo mandati in Siberia a prendere fresco, così già li arrivano belli freschi. E quando uno ce li avvicini già trasmette la È un po' come la chewing gum, sai quella che apre la bottiglia con dentro l'alito del ragazzo che ha mangiato la chewing gum e partono i capelli. Esatto, no? Quella tra l'altro uno sponsor proprio della vecchia URSS che sponsorizzava la Siberia. Unione Russi senza senso. Senza addirittura senza senso, cioè non hanno nulla, senza senso. Si ribadisce il senso. Esatto. Che veramente bello. Allora, io mi emoziono. Io vorrei invitare la collettività giovanile. Ecco, dia tre buoni motivi a chi ha l'ascolto per recarsi nell'arena del Gulag, mi sembra si chiami, sì, per vedere il nuovo film. Allora, il nuovo film, intanto, è un film bellissimo, bellissimo, del nonno di Nanni Moretti. Il nonno di Nanni, sì, come la Robbiola, esatto, nonno Nanni. Esatto. Buono il nonno Nanni. E arriva il bambino dall'altra parte, nonno, esatto, Nanni. Il nonno di Nanni Moretti, e ovviamente, che ha fatto questo bellissimo, bellissimo, bellissimo film. Abbiamo capito che non è male, sì. No, è bellissimo, perché tra l'altro è proprio, diciamo, ti analizza il film. Cioè non sei tu che analizzi il film, è il film che analizza. Cioè è una spiegazione del film, sì, dentro il film. Allora, il film consiste praticamente in una telecamera puntata sul pubblico che si vede mentre guarda se stesso. E come si chiama il è film? È un'introspezione, si chiama Guardati. Questo è un bellissimo. Scusi, ma lei non potrebbe invitare il nostro pubblico a stare a casa davanti a uno, no, specchio invece di arrivare in arena? No, perché poi c'è il commento a questo Cineforum, no? È un commento ovviamente sostenuto da vari interventi. Già ne abbiamo programmato una scaletta di interventi di 9 persone. Un intervento di mezz'ora. Ciascuno? Ciascuno. Ma sono 3 ore, mi scusi. Sì, lo sappiamo, ma il film dura già 5 ore. Dobbiamo quindi fare almeno 3 ore 8, di interventi, sì, certo. E quindi va bene, perché poi ognuno vede la sua introspezione attraverso lo schermo. Come ha detto? Introspezione. No, prima, ognuno. Ognuno vede la sua introspezione attraverso lo schermo. Quindi vi invitiamo veramente questa sera di caldo a staccare la testa dalla vostra televisione, aria condizionata, dalla vostra aria condizionata, a venire a Regalcioffoli per guardarvi, per guardare voi stessi, introspettitevi. Questa è la parola del vero comunismo. E allora, culturale. Su questo invito a introspettirci, ci ascoltiamo un altro pezzo di Bruno Mars, It Will Rain. Have it anymore. There's no religion. E dopo aver ascoltato il pezzo preferito dal nostro regista Bruno Mars, It Will Rain, che lui ha anche come sveglia e anche come segnale per uscire dalla doccia quando la fa troppo sì, lunga. Che tra l'altro il pezzo significa chiovi e oggi... Sì, pioverà, cioè pioverà. No, chiovi sarebbe no, It Rains, It Will Rain. Quindi ora, no, Alessandro, aspetta, togli dicevi? Il volume e Alessandro ora no. canterà l'inciso di It Will Rain. Silenzio, come ti viene viene? It will rain. Ok, proprio lei la riconosce, cioè subito, si riconosce all'impronta. Non no, so che no, tipo di impronta. Che stavi dicendo? No, dicevo che l'ho messa anche per ricordarmi di andare in bagno. Ah, vabbè, sì, non perché non ti piace, proprio come promemoria. No, esatto, perché... Nell'agenda del telefonino scatta e tu dici, oh, it will rain, devo andare a... Vabbè. Va bene, allora, quanti di voi sono ancora bloccati con gli esami universitari? Io, a me manca l'ultimo, mi laureo ottobre. Ecco, Eleonora pure. Lo chiedevo agli ascoltatori. Serena già lavora. Chi se ne frega di quello che... Io, per esempio, c'ho un esame domani, ma... No, che cosa? Diritto finanziario. Spero non ti entri diritto. Speriamo bene, speriamo. Qua ci sta uno sbam. Esatto. Soprattutto con la spending review. Perché c'è un ragazzo che si è laureato troppo in fretta e l'università l'ha denunciato. Dove è successo? In Germania, ovviamente. Sì. Che è stato, insomma, è stato indagato dalla sua università, che pretende un risarcimento di 3.000 euro. Sì. Allora, perché ha impiegato 20 mesi per sì. passare 60 esami. Si chiama Marcel Paul. Che in italiano vuol dire Marcello il Pollo. Esatto. 22 anni, lavora in una banca a Francoforte. Cioè, allora, ragazzi, questo ha 22 anni, lavora in banca, si è laureato in 20 mesi. Ora, e gli hanno chiesto soldi. Ma una denuncia. Ma una denuncia. Si è laureato con lode e la supercorsa ha bruciato le tappe. Il ragazzo ha impiegato solo 3 semestri anziché 11. E questo alla sua università non è piaciuto. No, non gli è piaciuto. Cioè, perché? Non si sa. Perché ci è rimasta male, voleva più tasse. Tra l'altro era un'università privata di economia e management. Ma poi scusate, come si fa a finire così tanto prima? È previsto? Perché dico, non è che anche se io fossi stato un mostro in medicina in 3 anni arrivavo e volevo laurearmi. Non lo so. Perché le materie seguono un corso, cioè i corsi di insegnamento durano 6 anni, quindi come fai a laurearti prima? Non si sa, ma l'università perché l'ha denunciato? Non perché si è laureato prima, ma perché chiede un rimborso di 3.000 euro, ovvero le tasse che il ragazzo non ha pagato avendo finito in anticipo. Certo, cioè, tutta una ovviamente cosa di si vogliono riprendere le tasse che non ha pagato avendo finito nella metà del tempo. Quindi Paul non cioè, è più scusa, uno studente un dall'agosto del 2011. Quando è arrivata la denuncia credevo fosse falsa. Il ragazzo spiega che i piani di studio erano concordati con l'università e dice la bravura dovrebbe valere qualcosa, ma non 3.000 euro immagino. Cioè, infatti. Vabbè, però se ne frega perché il posto di lavoro ce l'ha. Certo, 3.000 euro sono sempre 3.000 sì. euro. Ma il suo avvocato Bernard Krass che in italiano letto, si traduce con Bernardo il Crasto, che in tedesco va letto sempre urlando Bernard Krass, yeah, avvocato di Paul, ha dichiarato siamo sempre contro gli studenti lenti negli studi, ma se qualcuno finisce in anticipo improvvisamente deve comunque, pagare. C'è il regista che è morto su Krass, sì, avvocato di Paul, sì. E dice sì. che non può essere giusto, sì. L'università sostiene che le tasse sono uguali per tutti indipendentemente dal tempo impiegato, ma un portavoce insomma si senti, scalpita dalla porta. La vicenda stanno scalpitando alla porta tribunale. Stanno sì, scalpitando sì, stanno scalpitando. Parlane perché? Un po' che io lo vado a chiamare. Allora, di un po' chi è. Cosa succede? Oggi, oltre alle interviste, vengono a trovarci dei personaggi che ci hanno tenuto compagnia in queste stagioni dell'Onda in Onda. Uno ci è venuto a trovare poco fa, era Fidelio Cusimano. Adesso è venuto già la scorsa puntata, ma l'abbiamo qui con noi di nuovo in studio. Lui è Tony Scopelliti. Tony Scopelliti è un ex medico nutrizionista cacciato dall'ordine dei medici perché ha ucciso un uomo involontariamente somministrandogli una ricetta dell'anduia calabrese. L'uomo era malato di ipertensione. Da allora lui, per lavare l'onta di questa vergogna, gira per le radio dando le ricette tipiche della Calabria e dimostrando quanto siano buoni i prodotti tipici calabresi. Quindi mi raccomando, carta e penna, perché sono un po' difficili da seguire le ricette di Tony Scopelliti e noi non possiamo non averlo qui senza la sua, ovviamente, tarantella calabrese. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, buonasera. Buonasera, Tony Scopelliti. Per cominciare, no, un bello schiaffettone, no, che è un piatto tipico, se ricordi. Sì, è un piatto tipico, ma io ho anche il torcicollo, caro. Ma infatti, uccioletti, non bene, e poi l'allaccia, così lei compensa. Compensiamo. Allora, Tony Scopelliti, lei sì. oggi che ricetta ci propone? Oggi anzi, c'è prima, Cauro. Prima, sì. una cosa, io sì. sono una curiosità, ma prima di venire qui in radio da noi, lei dov'era? A mare. Ma a mare, cioè, non gira in tutte le al radio. Porto di Termini. Al porto di Termini. Sì, mi viene a fare un bagno, che bello, no, c'è la sabbia. No, ma intendo prima, cioè, che cosa, dove è stato? Ah, durante la settimana. Sì. Sono andato addirittura all'estero, in Umbria. In Umbria? Sì, arrivando, anzi no, Umbria, scusa, ci assomiglia a Riforma, Basilicata. Ah, in Basilicata. Dove ho scoperto che ci sono i sassi di Matera. Ma c'è anche altro. C'è anche il petrolio in Basilicata. Chi se lo sapeva? Spiegamo, signor, c'è un petrolio. E lo può usare per qualche ricetta. Assolutamente, può servire per domare un gas. Sì, anche volendo. Ovviamente. O le torce, quelle, le lanterne. Esatto. Va bene, allora, Tony Scopelliti, di che parliamo oggi? Io oggi ho portato un bello primo piatto che ve lo dovete scrivere dall'inizio alla fine. Sì, scrivete, ovviamente scrivetelo, prendete carta. Aspetta che pigli ruciato. Sono le mille cosette. Come? Mille cosette. Come? Mille cosette. Ma che cosa sono? Un minestrone di verdure e di peste. Un minestrone. E come si chiama? Mille cosette. Ma perché avete questi nomi così? Non lo so. Era il millesimo. Era la No, no. Perché mille cosette? Perché era il millesimo. La millesima ricetta era da zona. Sicuro? E chiamiamo mille cosette. Che non c'entri con gli ingredienti. Assolutamente no. Ma quali sono, certo, ci stanno pure tante cosette. Ma non ci avevo pensato. Può essere. Possibile. Allora, un cos'è, pugno. Un primo, un secondo. Un primo. Un primo. Ingrediente. Pigliate carta e penna. C'è un pugno. Come un pugno? Un pugno. Ma di che? A chi do vicino? A chi do vicino? Ma non ho scusa, ricetta. Leggevo male. Un pugno di fave secche. Ah, un pugno di fave secche. Poi sì, un pugno di ciechi. Avete a pigliare un po' con i cristiani ciechi. Perché siccome sto piatto non è bello l'italiano. Ma perché? Ah, ricesci, scusa, è che oggi un birupone. Ah, di ceci. Sì, sì, sì. Poi un pugno di lenticchie, mai veloce, sempre lenticchie. Sempre lenticchie. Sì. Un pugno di cicerchie. Cosa sono? Che di caso ne trovi poi ricerchi. Ah, dottor Scopellito adesso mi spiega cosa sono le cicerchie. E turiste, che di caso ne trovi poi ricerchi. Non e già stava a stare così. Qualcuno, perché se parla ancora ti mando un sicario. Qualcuno le cose. Si sa cosa sono, prego, le cicerchie? 380 76 90 204. Oppure 320 8327 710. Ma perché il tuo numero di cellula? Perché ha dato il mio numero di cellula? Non lo capisco. Tony Scopelliti, perché mi ricordo a memoria. Poi ci vuole un pugno dei fagioli bianchi. Sì. Vedi che oggi noi siamo poche quantità. Sì, a lei ci sembra. No. Ora arriva, è bello, 2 tonnellate di cavolo verza. Ma perché? Per 3 persone. È uno spuntino pomeridiano, non mi riuscisse che assai. Quindi poi ci vuole 2 tonnellate. 2 tonnellate, sì. Quanto sono? Diviso 3. Ci pensassi. Poi ci vogliono 8 cipolle di Tropea, che proprio a letare e a faricare i risciuri pure a 20 km da casa. 8 cipolle di Tropea, sempre per 3 persone. Per 3 persone, è ovvio. Poi ci vuole una manciata di funghi secchi. Un saccio che si mangiò, ma ci vuole una manciata. Poi ci vuole un gambo di sedano, che se non ci piace, lo sapevo che cosa ne può fare. Non c'è bisogno che ce li qui. Poi ci vuole una vasca di olio d'oliva. Una vasca intera. Sì. Un birro più niente, però mi fido. E poi ci vuole sale. Sì. Sì, poi scinne, che è tornato. Certo. E poi ci vanno 3 kg di pasta lunga spezzata con le mani. Con le c'è mani. Gente che ci provava con cutello, morì. Pasta lunga, ma quanto lunga? Ma lunga, almeno sai qui un metro e mezzo, gli spaghettoni. Sì. Sì. Tipici calabresi. Tipici calabresi. Sì, sì, sì, sì, sì. Li vendono proprio in convenzione speciale, insieme alla lentuglia o peperoncino. E quindi c'è scusi una se l'ho sputata, su lentuglia. No, non si prova. C'è il ponte all'occhio. Va bene, il procedimento. Il procedimento è sempre veloce, quindi pronti. Vai essere di partenza, scrivete. Mi raccomando, scrivete. Sì. Mettete a bagno della sera tutti i legumi, quindi prendete la cucina abbondante e accunitamente al sedano a cavolo, le cipolle affettate ai funghi, fatte rimanere in acqua tiepida. La vita a fare rinvenire per chi si svegli, non si può cucinare. Ma cosa? I funghi. Condite con olio d'oliva e sale, non se ci prendete gocce, fate cucina la pasta. Arrivederci, torna a mare. Come nel recipiente? E allora lanciamo il prossimo pezzo dopo che è stato qui con noi Tony Scopelliti. Ci ascoltiamo con la voce californiana Jennifer Lopez con Pitbull in Dance Again. Dance, yes. Next, dance, yes. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, madre, you should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Yeah.

C'era una volta una fiaba che parlava di menzogne. Pippina, Pinocchio! Scotto Club Dog, monisti ed ipocriti al rogo. Tutta la mia gente sotto il palco fa il pogo. Più a voi da fastidio più godo. Rapperò Milano, tutto fiamme col microfono in mano. Mentre sto paese va puttane come rubi. Non puoi fare il politico in Italia se non rubi. Non ti serve un cazzo se studi o se studi. La TV di tronisti, tronisti giornalisti venduti. Tu le tue bugie nei TG, ve ne andate a fanculo come papà di Gil. Tramor per gatto, questa notte si festeggerà. Sì, la tua fatina in burattini ci trasformerà. Pinocchio tra gli dèi, Pinocchio tra gli dèi, Pinocchio cosa sei, Pinocchio cosa sei, tu che hai tradito tutti noi, tu che hai tradito anche tuoi, e allora vaffanculo amico, vaffanculo. E adesso vai tu, Jack! Occhio Pino, questi Pinocchi hanno l'orecchio fino, sì. Con il coltello alla schiena ed in faccia l'occhiolino. Fanno gli onesti ma domani andranno tutti al fresco. Sembrano pieni di figa ma sono tutte esco. Vince la palla maggiore, ti sembra più signore. Sembra la palla del pesce detta dal pescatore. Fuori dal ministero, sì. Fuori dal monastero, sì. Vita mia, né stato né polizia. Fotto l'istituzione che vive di prostituzione. Che se la ride si riscrive la costituzione. Mi avrà fottuto se mi abito a quello che vedo. Ma non potrà avermi fottuto se non gli credo. Il mangiafuoco muove i fili della verità. Pinocchio tra gli dèi, Pinocchio tra gli dèi, Pinocchio cosa sei, Pinocchio cosa sei, tu che hai tradito tutti noi, tu che hai tradito anche tuoi, e allora vaffanculo amico, vaffanculo. Tutti noi, tu che hai tradito anche tuoi, e allora vaffanculo amico, vaffanculo. Pinocchio tra gli dèi, Pinocchio tra gli dèi, Pinocchio cosa sei, Pinocchio cosa sei, tu che hai tradito tutti noi, tu che hai tradito anche tuoi, e allora vaffanculo amico, vaffanculo. Fiaba, Pinocchio, Pinocchio, e ancora qua! Occhio, Pinocchio! Ed eccoci qua, con l'ascolto di Pino Scotto in, il pezzo è? Pinocchio! Sì, io non mi sento, sì, ora mi sento. Ok, ci siamo, ora mi sento. Perfetto, scusate un attimo, abbiamo un problema di cuffie. No, ho fatto confusione di... Ah, il nostro regista. Ma il nostro regista è bravissimo. Bravissimo. Applauso, quindi può capitare, anzi... Applauso alla regia. Va bene, allora, abbiamo annunciato io i sono nostri emozionato. Ospiti, insomma, sì. Per tutta la puntata abbiamo avuto Zib poco fa con noi, avremo i The Jackal, avremo l'onorevole Paola Concia, ma adesso è l'ora dell'autore della nostra sigla, sì, della sigla del nostro programma, esatto. di un grande. È super cafone, abbiamo con noi Piotta. Pronto Piotta? Pronto, come state? Ciao, bene. Ma parlando con te stiamo troppo bene, mi viaggio per parlare romano, te posso. Grande. Ciao grande, allora, a posto, sei vivo? Sì, sono vivo, sì. Sì, no. Piuttosto giocosa come idea sarcastica, diciamo. Sì. C'era sta leggenda che eri morto. Sì, girava sta voce, sì, no, invece è morto e risorto, il rapporto. Esatto, esatto. Senti, ne parliamo dopo di questa tua rinascita, un po' biblica. Un po' come l'araba fenice. Sì, un po' come l'araba fenice. Più l'araba fenice. Esatto. Vorrei accomodare poi comuniche. Esatto, esatto. Io volevo, insomma, a parte che ti ringraziamo per essere intervenuto qui ai nostri microfoni, soprattutto con l'Onda in Onda, che prende nome dalla tua canzone, che è La Grande Onda. Volevo intanto scambiare due parole con te riguardo al progetto. Ah, te voi vi chiamate in base alla canzone? E te pare. Bomboclat a palle, tra l'altro, è pure la nostra sigla, La Grande Onda. Sì, quindi figo. Senti, due parole sul progetto Iper, Indipendenti per l'Emilia Romagna e Lombardia. Voi avete fatto il singolo promosso, tra l'altro, da te, il progetto che è ancora in piedi, che adesso è diventato un tour. Noi l'abbiamo trasmesso la puntata scorsa, lo trasmetteremo anche oggi. Ma due parole su questo progetto. Ma guarda, il progetto unisce una ventina di nomi della scena indipendente, aggiungerei alternativa italiana, al di là del genere musicale, con lo scopo di essere coesi per un fine che è quello di raccogliere fondi da destinare su un conto di banca etica alle popolazioni colpite dal terremoto in Nord Italia, quindi in primis Emilia Romagna, ma anche la parte a sud della Lombardia, quindi diciamo il Mantovano. Dal folk rock di Cisco alla canzone d'autore di Eric Amu, dal reggae di Sound System al metal di Laguna Coil, passando per 9 posti, sottoscritto, Teatro degli Autori, Quinto Rico, insomma veramente siamo in tanti. La canzone è già su iTunes da alcuni giorni a 0,99 centesimi. È una ballad che sembrava, insomma, diciamo, stilisticamente, ecco, la dimensione giusta per unire artisti con percorsi così differenti. E soprattutto vedo che ci sono alcuni artisti che hanno collaborato con te anche nell'ultimo album, come Capovilla, che noi tra l'altro abbiamo avuto ai nostri microfoni, sempre qui al telefono all'Onda in Onda. Devo dire che il progetto sta riuscendo benissimo, appunto è diventato un tour. In quali date farete il concerto per gli indipendenti per l'Emilia Romagna e Lombardia? Sì, guarda, l'idea era di fare proprio un tour sul territorio, cioè andare a suonare in quelle province dove c'è stato il terremoto per aiutare a risollevare, insomma, nel nostro piccolo le sorti dei comuni stessi, delle persone che ci vivono. Quindi per cui cominceremo da Modena lunedì 16, quindi lunedì prossimo. Si uniranno anche altri nomi a quelli presenti nella canzone, perché l'abbiamo fatta in una settimana, per cui non tutti erano disponibili per questione di tempo. Ci sarà anche Capostella, ci saranno i Moderati di Ramblers, ci saranno i Rio, ci sarà Frankie Energy, questo, oltre a me, Cisco, Braghe Corte, Eric Amu, in questa prima data. Poi ce ne sarà un'altra a Carpi, un'altra a Mantova il 13 settembre e un'altra per chiudere invece, almeno per questo momento, nel Ravennate a Faenza in occasione del Super Sound a fine settembre. Quindi è un tour, diciamo, che cambia, perché cambiano anche i protagonisti di data in data, se non sbaglio. Sì, cambiano i protagonisti, nel senso, logicamente andiamo tutti a titolo gratuito, per cui anche sì, in base alla presenza in Italia, alla disponibilità del musicista in primis, ma anche di tutta la sua band, quindi cerchiamo di essere il più numerosi possibili, il più popolari possibili, così da raccogliere fondi, così come abbiamo fatto in questa canzone, pur essendo tutti artisti indipendenti alternativi, però abbiamo voluto realizzare un brano che nel suo potenziale potesse davvero arrivare a tutti, in modo da cercare di aiutare il più possibile, visto che lo scopo è palesemente, onestamente, raccogliere fondi, per cui che venda il più possibile. Senti, Piotta, parliamo un attimo del tuo ultimo album, rallegremoci un pochettino. Tu hai cambiato completamente stile musicale, a parte, insomma, Piotta è morto, che spacca davvero, e trovo tra l'altro molte citazioni nel video, c'è citazione di Fibre che ti ha fatto un dissing contro, Marrakesh, Eminem e poi Truce Baldazzi, che secondo me è il diamante di questa, la punta di diamante. Sì, la punta di diamante, no? Proprio il diamante. Bello, no? Abbiamo mescolato da Eminem a Truce Baldazzi, cioè senza, così come YouTube poi adesso, no? Non è che c'è tutte queste dimensioni discografiche internazionali, saltano tutte nel tubo, cioè un flusso continuo di coscienza. Senti, ma Odio gli indifferenti è riferimento a Gramsci, a Scritti giovanili? Sì, assolutamente sì, perché trovavo un titolo quanto mai, è una di quelle frasi che sembra detta un minuto fa ed è suona attualissima, logicamente da una persona storicamente così carismatica e importante, e ben rappresentava lo spirito di questo disco, e aggiungo anche del precedente, che appunto Suono Diverso apre un po' questo nuovo percorso che assolutamente non rinnega il passato, ma anzi inserisce il rap in un contesto molto però più duro, cioè di strumenti suonati, molto più rock, più aggressivo, con un live con tutta la band. Quindi direi dal mio punto di vista un'evoluzione. Tu infatti hai detto che è il secondo album di studio, nonostante sia il settimo in realtà. Sì, per certi versi ho voluto sottolineare questa cosa, che tecnicamente magari non è corretta, però emotivamente lo è, cioè nel senso davvero Suono Diverso, dopo una serie di esperienze personali, altre musicali, ha aperto un nuovo percorso che è molto meno hip hop, dove nel frattempo c'è stato un grande ricambio di nomi ed è fisiologico che sia così nella musica in genere, nella vita, e nel frattempo anche io mi ero spinto altrove, a partire dalla Grande Onda, che sì, insomma è nel reparto hip hop, ma anche no. E quindi mescolando appunto rap, rock, analogico, elettronica, cercando di trovare un po' la mia ricetta personale. Senti, io appunto riguardo a questa questione del crossover, so che nel tuo tour che stai facendo hai mischiato alcuni pezzi tuoi storici come Super Cafone o Vengo dal Colosseo, con Vespino, Rosso Bordeaux. Attenzione, mi piaceva, l'improvvisazione. No, mi piaceva proprio cantare. insomma, che il Bambo del Giubileo. L'hai mischiati con dei pezzi storici rock come Walk This Way degli Aerosmith, che però è già un crossover che era con Run DMC. Sì, infatti sì, perché poi ho cominciato ad amare l'hip hop con un pezzo che in realtà già era crossover, per cui ti rendi conto che a volte tutta l'evoluzione ti riporta poi un po' con una conoscenza, una maturità differente, però anche un po' che quello è, a quello che emotivamente e inconsciamente è stato il punto di partenza. Quindi vuol dire che davvero quella passione era proprio l'ascolto, mi ha cambiato la vita. E quindi metto quelle canzoni che per me sono state un po', alcune di quelle canzoni che per me sono state importanti anche del mondo del rock, quindi Walk This Way, quindi per esempio su Mambo del Giubileo che cantavi prima ci sta da Dio il pam pam pam pam pam pam pam pam pam, cioè il famoso giro di basso di Guns of Brixton dei The Clash. Mm-hmm. Oppure su Spingo Io la Roba, che sotto c'è il giro di riffone di Foxy Lady, perché insomma ci abbiamo pure Hendrix. Citazioni. Yes. Cioè Hendrix e Piotta sarebbe anche bello. Uno dei più grandi mashup della storia. Sì, speriamo che non glielo dica nessuno. No, no, tranquillo. Ma perché non c'è una data in Sicilia del tuo tour, Piotta? Non c'è una data in Sicilia perché in realtà abbiamo avuto parecchie trattative, almeno tre, Messina, Catania e Palermo, ma nella grande crisi che impera. Guarda, allora, sei il secondo che ci dice la stessa cosa. Zibba poco fa in intervista ha detto problemi economici, ma la Sicilia non vi pare? No, ma te lo dico onestamente, io la Sicilia c'è una terra che non è per dire, perché siamo in radio, amo tantissimo, cioè, davvero ho un sacco di amici e mi farebbe tanto piacere venire, e con l'altro tour siamo riusciti una volta ad andare a Palermo in occasione della ricorrenza dell'assassino di Falcone, però venire con la band purtroppo è una di quelle, così come la Sardegna è particolarmente problematico, perché poi muoversi in sette persone, certo, con gli aerei e compagnia d'estate è un problema, poi magari a gennaio non lo è, però è bello venire pure, insomma, capito, stare qualche giorno in più e fermarsi e fare un po' di sano mare che avete voi, e questo purtroppo di questi tempi è un problema. Venire solo col DJ set mi scoccia, perché so quanto è bello lo show, so che dura due ore, so tutti i contenuti musicali e le rime che ci sono, e quindi mi farebbe piacere portare lo show di serie A, quello che io ritengo migliore dopo insomma tanti mesi di prove, e visto che sta raccogliendo insomma consensi altrove, poter testarmi e testare anche lo show in Sicilia. Spero che comunque non demordo, che avvenga presto. Senti, nel tuo album tu parli di molti temi in diverse canzoni, praticamente è come leggere quasi un giornale, come documentarsi su quelli che sono i pensieri singoli di un italiano che vive in questo periodo. Ma cos'è cambiato dal Piotta Giaguaro al Piotta che pensa e studia? Cioè, no, non per dire che non studiavi prima, no, nel senso l'impegno delle canzoni. È logico che pensiero e studio c'erano anche prima. Cambia il fatto semplicemente, un po' oggettivamente è proprio cambiato quello che è intorno a noi. E un po' fisiologicamente... Già, a testa alta l'avevi, insomma, ne avevi fatto, sì, il tuo... Sì, cioè, nel senso che comunque un conto è l'Italia anni 90, che aveva ancora un po'... Cioè c'era già un sentore di cambiamento in negativo, ma comunque c'era ancora un po' di ombra degli anni 80, no? Si respirava ancora quella scia. E l'Italia agli anni zero è proprio zero o poco più, e c'è molto da rifare. E a livello poi personale questo combacia casualmente o meno anche con una crescita, quindi cominciare a scrivere testi a 20 anni e poi te ne trovi che ce n'hai 38, insomma un altro paio di maniche. Nel frattempo la famiglia anche cambia, no? Uno sta a casa e vive con i genitori, è un po', diciamo, non è proprio in trincea, no? Vive un po' nelle linee di dietro. Ti ritrovi poi che invece la tua vita la fai in prima persona, in trincea, con tutta la battaglia quotidiana. È logico che puoi andare a casa e bleffare, non è da me, dicendo che tutto ok e pischelli a vita, facciamo finta che ci divertiamo e cazzeggiamo, lo troverei disonesto nei miei confronti e anche del pubblico. Capisco che magari è più accattivante commercialmente, ma è più forte di me, non gliela faccio. Esatto, è anche militare. Sì, quelle ultime volte che l'ho fatto in realtà è ancora più a doppia lettura che all'inizio, è già super capone a doppia lettura, Certo è morto a doppia lettura più che mai, La grande onda a doppia lettura, Troppo avanti a doppia lettura, cioè hanno una dimensione più ritmica, ballabile, da sudare, diciamo, e una più invece che tra le righe comunque dice delle cose, anche se con una chiesa che tenta di arrivare a più persone possibile. Senti, in conclusione, io volevo farti una domanda proprio personale, perché ogni volta che lo guardo dico, ma che ci fa lì? Che ci fa Flavia Vento nel Mambo del Giubileo? Ovviamente ci fa, perché il Mambo del Giubileo era, e tra l'altro è stata fino all'altro anno, sigla di Stracult, il programma su Rai 2, su il cinema, sui B-movies, che in quell'anno 2000 in cui ho fatto la sigla, ho fatto il video, che è stato non a caso girato da Marco Giusti, che è l'ideatore e regista del programma, era condotto da Flavia Vento. Madonna, no, io questa non la sapevo. Però, perché ci sono cresciuto, la mia infanzia l'ho avuta con il Mambo del Giubileo. Ah, pensavo con Flavia Vento. Con Flavia Vento? Perché mi stavo preoccupando. Sì, sì, no, anch'io ho pensato con Flavia Vento. La partenza sembrava andasse a finire proprio da quella parte. Senti, Piotta, io ti devo fare una domanda, cioè un piccolo favore, se possibile. Per salutarci, cioè la tua sigla da 4 stagioni, ma non ci puoi fare un piccolissimo inciso anche di una mezza strofa della grande onda, ti prego? Vai, vado? Vai, quando vuoi. A cavallo di quest'onda sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna, onda in onda, bombo, clap, piotto, piattiamo, mo se vai. Sei grande, un grande, questa grande ce la campioniamo e sarà la sigla, sì, insomma, della mia sveglia del telefonino. Sì, io me la metto ogni mattina. Senti, allora, Odio Indifferenti, 15 euro, compratelo nelle migliori, insomma, nei migliori negozi. Edicole. Si trova quasi più nei negozi. È vero, ormai DVD e CD si trovano più in edicola che nei negozi di dischi, è vero. Se volete comprare l'album io sono contento, blefferei se dicessi il contrario perché merita, ma detto questo, se non vi bastano i soldi e dice vabbè non lo compro, vi bastano solo 0,99 centesimi, anzi i primi di comprare qualsiasi altra cosa, per acquistare Ancora in Piedi, che è il progetto di cui abbiamo parlato con tutti questi artisti, sotto l'acronimo di IPER, che è Indipendenti per Emilia Romagna e Lombardia. Perfetto. Esatto, tra l'altro ci sono tantissimi nomi di artisti che meritano, se non sbaglio, insomma, Cisco e i Modena City Rambler si sono riuniti dopo tanti anni per cantare assieme, quando c'è stato... Sì, esattamente, infatti l'Aldallare è successo, in quell'occasione poi è stato anche presentato il brano proprio lì, Ancora in Piedi, con... Beh, la cita, insomma, Radio Bruno, che è una radio storica del territorio, sì, emiliano, sì, romagnolo, per cui è uno dei famosissimi, dei primi, sì, insomma, sì, a cercare di aiutare la regione, le province colpite. Va bene, allora acquistate Ancora in Piedi, acquistate Odio Indifferenti. Ti salutano i Mug o MUG o Mag. Loro, sì, ci hanno detto che va bene chiamarli in tutti, grande, i nomi, perché li abbiamo intervistati l'altra volta, erano molto contenti. Sì, sì, sì. Ci hanno chiesto proprio di salutarti. Di salutarti. Quello con l'etichetta La Grande Onda, che è anche il nome della lettera, è un gruppo molto interessante. Al momento solo di nicchia, però di gran qualità. E noi ci crediamo molto in queste case discografiche di nicchia, ce ne sono tante altre. E gli artisti sono veramente molto bravi, quelli che stanno cercando di emergere, sì, da questo mercato. Grazie, va bene, bombo, ciao Piotta, grazie. E allora, ciao, ci ascoltiamo, ciao, appunto, Piotta è morto. Ho visto mai quella porta che sta via al Ghebrai. Non lo voglio sapere che ci hai fatto ormai. Non me far giaguaro, non me far capore. Non sei più il ghepardo del 99. Ma che fine hai fatto? Ho strafatto di qualche schifezza. Lo dico con molta franchezza, che tanto non sei caparezza. Brr, Piotta, ah, ah, ah, Piotta, ti levo dal mio stesso.

mi sento più vicino a te. Te che mi cerchi, te che mi chiami in questa nebbia, banchi stanchi noi, aspettando si spalanchino i ricordi e poi davanti alla tristezza, con l'asfalto che si spezza, il tuo respiro vivo è come il vento e mi accarezza il viso. Puoi respirare l'alba e puoi guardare avanti e scrivere orizzonti nuovi superati, nonostante tutto siamo ancora in piedi, anche quando il cielo viene giù. Tu puoi respirare l'alba e puoi guardare avanti e scrivere orizzonti nuovi superati, nonostante tutto siamo ancora in piedi, anche quando il cielo viene giù. Siamo in diretta, sono le 9.06, ci sono state due forti scosse di terremoto. Resto in piedi anche quando tutto qui va storto, resto in piedi anche se cascasse il mondo, resto in piedi perché poi che c'è da fare se non mettersi in cammino per ricominciare. Ci sta Manu, insieme ne rialziamo. In fondo ancora non è tutto perso, sai se ti dà tenimo e tornamo in là del cibo. Tremano i palazzi e tremano le città, poi tremano i diritti, trema la dignità. Get up, più spenda, spenda, noi stan solo solidarietà. Tu puoi respirare l'alba e puoi guardare avanti e scrivere orizzonti nuovi superati, nonostante tutto siamo ancora in piedi. Quando il cielo viene giù, tu puoi respirare l'alba e poi guardare avanti e scrivere orizzonti nuovi e superarli, nonostante tutto siamo ancora in piedi, anche quando il cielo viene giù. Viene giù. Io interverrò. Bene, rientriamo in diretta. Lui interverrà, ha detto Antonio. No, perché no, se si comporteranno male con noi, io interverrò. Scusate, ogni tanto ci vuole. Ecco, l'uomo che si ricandida. Bene, allora l'abbiamo annunciato all'inizio della puntata ed è qui con noi. Siamo fieri, insomma, che sia qui con noi. Siamo onorati. Onorati al telefono, l'onorevole Paola Concia. Benvenuta, onorevole. Pronto? Pronto? Non la sentiamo bene. Pronto? Sentiamo male. Pochissimo, onorevole. Ecco, l'onorevole ha staccato. Va bene, allora non era presentiamo. Allora, onorevole, presentalo tu. No, presentiamo il libro che ha fatto. Allora, l'onorevole Paola Concia è qui in trasmissione con noi. Se riusciamo a ripristinare il collegamento, perché ha presentato un libro di recente, tra l'altro, proprio alla Camera. Parliamo oggi, proprio alle 15. Alle 15, sì, di poche ore fa, sì. Insieme al presidente Fini, Mara Carfagna, Rosi Bindi. E noi siamo subito, vedi l'onda subito come arriva, l'onda travolge, prende, coglie il momento giusto. Esatto. E di nuovo con noi in linea, ci fanno segno alla regia. Allora, benvenuta all'onorevole Paola Concia. Buonasera, mi sentite? Adesso sì, forte adesso... e chiaro, buonasera. Buonasera. Allora, mi candido pure io contro Berlusconi, va bene? Vabbè, guardi, non ci sono problemi, la aspetto. Sì, ogni tanto si impossessa di noi, sì, quindi ogni tanto lui aleggia qui nello studio. Onorevole, allora lei è stata tra l'altro oggi, diciamo, alle 15 ha presentato il suo libro alla Camera insieme a Fini, la Carfagna, Rosi Bindi. Com'è andata? Bene, è stata una presentazione un po' sui generis, molto movimentata, molto allegra, allegra. Ebbene, così va bene, questo porta bene anche al libro, ne siamo sicuri? Un po' fuori dagli schemi un po' ingessati della Camera. Fini era molto contento perché il pubblico partecipava al dibattito, applaudiva, mugugnava. Bene, è stata partecipata, molto partecipata, benissimo. Allora, la vera storia dei miei capelli bianchi è scritto con Maria Teresa Meli del Corriere della Sera. Diciamo che è un'autobiografia, anche se lei dice nelle prime pagine che non vuole essere un'autobiografia perché la sua età non sarebbe... Facciamo le corna, no? Sì, ovviamente, ma le famo tre volte, tutte le volte che vuole noi facciamo le corna, tutte facciamo le così. Le corna, che voi siamo tutti del sud, voi siete calabresi. No, noi siamo siciliani, però arriviamo fino in Calabria, sì, come... scusate, siete siciliani ma arrivate in Calabria. Siamo di Termini Imerese, dove c'è purtroppo, come sa, lo sa bene che problemi abbiamo qui, comunque. Andiamo avanti. Siamo tutti del sud, subito, facciamo le corna. Ma assolutamente, no? Corni rossi e via. Allora, comunque, questo libro... Sì, appunto, non è una, è un'autobiografia, è una parte della mia vita, spero che, diciamo... Che sia solo la prima parte, ecco. Ovviamente, poi faremo la parte 2. La parte 2. No, e sì, è la storia della mia vita intrecciata con la storia d'Italia sui diritti civili. Quindi è un libro tra il romanzo, il racconto, e il libro politico, il libro storiografico, insomma. È difficile dargli una connotazione precisa, diciamo. Una connotazione, perché è un po' un misto, è stato un lavoro molto bello. L'intento è quello. No, dicevo, l'intento è due anni, sì, con Maria Teresa Meli, un lavoro molto bello, molto. E sì, l'intento era quello di evitare che gli altri omosessuali commettano gli stessi suoi errori. Diciamo, perché appunto già nella prima pagina lei spiega che se avesse potuto scegliere non sarebbe stata lesbica, perché dice che le donne sono molto più complicate degli uomini. Sì, io il primo capitolo è proprio il capitolo per sfatare la vicenda dello che l'omosessualità è una scelta, perché è la cosa più irritante del mondo per un omosessuale sentirsi dire che è una scelta. Ma che scelta? Mica vado al supermercato. Esatto, è successo, va bene, ce la prendiamo, quindi, certo. Appunto, non è neanche l'eterosessualità è una scelta. No? Assolutamente. E quindi nel primo capitolo del libro spieghiamo, per spiegare questa cosa io faccio questo paradosso, che neanche tanto paradosso è, e cioè dico che se io avessi potuto scegliere, se fosse stata una scelta, certo avrei scelto gli uomini perché sono più semplici, banalmente. Ma io qui mi sono un po' offeso e ho anche valutato di diventare omosessuale. Ho detto magari mi trovo meglio, vediamo se sono più semplici. È un sempliciotto. Onorevole, lei viene da una famiglia cattolica, come scrive nel suo libro. Addirittura sì. I suoi genitori erano dirigenti dell'Azione Cattolica, sì. E avevano come alunno Gianni Letta. Già, questo... mio padre ha fatto formazione politica Gianni Letta. Porta dietro questa. Stendiamo un velo. Ma lei, per tutte risposte, si innamorò di una suora delle Pie Filippine. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo, cioè, da bambino. Questo ci ha proprio. Ci ha cambiato la giornata, questo passaggio del libro. Bellissimo. Questa suora. No, ma non mi sono innamorata. Cioè, era una suora giovanissima. Che giovane ci aveva avuto 20 anni. E era una suora molto bella, questo sì. E alla prima elementare, è stata la mia suora per un anno solo, per la prima elementare, purtroppo. Però era una suora che mi amava molto, devo dire che aveva capito questo mio spirito libero, che era una ragazza libera, che molto dinamica. E questa cosa lei la secondava molto e oggettivamente io ero felice di questa cosa. Poi purtroppo è stata un anno solo e poi l'hanno mandata forse, diciamo, non lo so dove. Comunque l'hanno mandata in un altro paese proprio. Però no, non era innamorata, era l'amore per questa suora giovanissima, dinamicissima. Sì, era rimasta colpita da questa immagine molto dinamica, sì. Sì, era giovane, era una ragazza. Senta, onorevole, lei dice nel libro sostiene che gli adulti e la società entrano violentemente nella formazione del pensiero sessuale. Mentre con i giovani lei si trovava molto più, diciamo, normalmente, seppure sbagliato usare questo termine. Sì, certo, cioè è un termine appropriato, nel senso che io quando mi sono innamorata di Giulia, in realtà i nostri coetanei... Col famoso bagno nudo. Il famoso bagno nudo, sì. che è quella cosa... che abbiamo vissuto tutti, sì. Non sono nella prima e spero di non essere l'ultima, soprattutto spero che tanti ragazzi e ragazze vivano quei momenti così belli per il primo amore come l'ho vissuto io, e però appunto il mondo dei nostri coetanei era più tranquillo rispetto a noi, insomma non aveva nessuna non ci fu nessuna cosa stridente, mentre invece l'impatto col mondo degli adulti fu un impatto molto duro, molto brutto, molto violento. Il mondo degli adulti rifiutò questo amore praticamente. Sì, lei scrive infatti che la fecero sentire quasi sbagliata, brutta, sporca e cattiva, scrive lei nel libro. Sì, questo amico di mio padre mi fece sentire esattamente così. Senta, ad un certo punto lei fa un accenno anche alla vicenda del suo aborto e spiega che non si sentiva pronta ad avere un figlio. Ora, al di là di questo, per quel che riguarda i diritti delle coppie gay ad avere un figlio, anche adottato, l'Italia è ancora molto indietro, nonostante però non esista una non sia disciplinata legalmente non siano disciplinate legalmente le famiglie arcobaleno. Sì, io penso invece che questo paese abbia solo bisogno di conoscere queste realtà, perché il pregiudizio si vince molto con la conoscenza. Io sono una persona che, oltre ad aver presentato una proposta di legge sulle famiglie omogenitoriali, scritto dalle famiglie arcobaleno, penso assolutamente che una coppia omosessuale possa crescere un figlio e una figlia nello stesso modo come lo può crescere una coppia eterosessuale. Beh, esistono già, infatti, sono le famiglie arcobaleno. Appunto, esistono già questi bambini, sono 100.000 bambini in Italia che crescono in queste famiglie che sono discriminati rispetto agli altri bambini. Che hanno meno diritti degli altri bambini. Senta, Dica. Dicevo, visto che oggi ha presentato il libro proprio con Rosy Bindi, cioè sì. Come ha fatto? Che è una conservatrice del PD e tra quale le scrive nel libro si è scontrata molto duramente con la Bindi riguardo le tematiche dei PAX e dei DICO. Non è stato un dialogo facile con lei, questo oggettivamente lo hanno visto tutti, quindi è inutile che io menta. È stato un po' complicato, ma è una battaglia, vede, io sto facendo una battaglia politica anche dentro il mio partito, alla luce del sole, nei confronti di una cultura che fa fatica ad accettare con questa realtà, cioè la realtà delle famiglie omosessuali, e la sto facendo sì, anche nei confronti di Rosy Bindi, che ha comunque fatto dei grandi passi avanti, ma anche delle grandi resistenze. Beh, però Bersani si è aperto. Bersani è molto più avanti. C'è una parte del mio partito che è più indietro. Io sto facendo questa battaglia nel partito, nella società, nel partito, nel Parlamento e nella società. Spero di vincerla, naturalmente. Io penso che nella società noi questa battaglia l'abbiamo vinta, perché i cittadini italiani e le cittadine italiane sono molto più avanti della politica. Ora si tratta di vincerla nelle istituzioni, perché poi sono le istituzioni che approvano le leggi, che sono le istituzioni che dicono ok, facciamo questa legge. È lì che io sto spingendo come un ariete per passare le leggi. E noi siamo con lei. E noi spingiamo, la aiutiamo. Commentiamo una notizia di oggi, io la seguo su Twitter, quindi ho letto, non avevo già letto, ma ho visto che lei ha presentato proprio l'interpellanza. Perché sì, oggi si è trovato sì. Un manuale destinato ad un concorso nazionale tenutosi a Padova, dove gli omosessuali vengono definiti degenerati sessuali, ed era un manuale dei carabinieri. Sì, io vi do uno scoop, va? Grande scoopone. No. Ci chiami sempre per gli scoop, onorevole. Ma se lei dice scoop, noi partiamo, la E parte da automatica. No, se no parte Berlusconi, no. Guardi, lei non mi deve neanche nominare, scusate. Ecco, l'ha chiamato. Scusate, bravissimo, comunque, guarda. Ma guardi, troppo buono. Onorevole, dico che fra un minuto dovrà parlare con un altro personaggio. È importante della politica italiana. No, però commentiamo la notizia. No, nel senso che oggi avete visto che anche la Fornero ha commentato, io l'ho incontrata alla Camera. E gli ho detto, per farle capire, lei ha capito subito, ho detto, ministro, ma se a lei la definissero come degenerata sessuale, ma come si sentirebbe? Lei quando ha detto ministro, io ho pensato subito a facci vedere il tuo ministero, però... Alla mitica battuta di John Mistechino. Immaginavo la scena, sarebbe stata bellissima. Sì. Tra l'altro, questa cosa nelle forze dell'ordine è molto... cioè è scandalosa, perché la settimana scorsa il vice comandante dell'arma dei carabinieri, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, adesso non ricordo, sì. Clemente Gasparri, tra l'altro fratello del di Maurizio Gasparri. Non è una parolaccia, puoi dire Maurizio. Ammettere di essere gay, magari facendolo su un social network come un graduato della Guardia di Finanza, non è pertinente allo status di carabiniere. Cioè. Comunque, guardi, un altro scoop che vi do è che domani io incontro il capo dell'arma dei carabinieri, quindi almeno si farà chiarezza su questi punti che sono abbastanza scandalosi. Loro hanno cancellato quella cosa che mi sembra, ma adesso dovranno venire in Parlamento. Io ho fatto l'interrogazione insieme a tanti miei colleghi, di questo sono felice che l'abbiamo fatta in tanti. l'ha firmata anche la Carfagna, l'hanno firmata parlamentari di altri partiti, quindi in cui però il ministro dovrà venire a dire che cosa vuole fare. Senta, onorevole, torniamo un attimo al libro. Mi spiega sì. Perché le piace Gérard Depardieu? Cioè, allora, io posso capire tutto, va bene, ok. Ognuno ha i suoi gusti, ma Gérard Depardieu, obiettivamente. Parliamo. Berlusconi che parla o a lei? No, sono io che parlo. Berlusconi è andato via, per ora si è allontanato perché sta per entrarne un altro ancora più su di Berlusconi. Cioè, ma Gérard Depardieu, mettiamoci, no, cambi lì, nella seconda edizione cambi, gli mette, ne so, Raoul Bova, qualcuno. Metta qualcun altro. Non va bene, Gérard Depardieu. Ma c'è anche Gifuni, però. Vabbè. Ah, beh, vabbè, penso Gifuni sì. Sia un bell'uomo, sì, assolutamente. Bello, bellissimo. Senta, onorevole, è qui che scalpita, glielo passo un attimo. Sì, me lo passo. Pronto, sei Paola? E sto parlando un poco più confidenziale. Io sono Giorgio, dal Colle. Non so se hai presente dal Colle. Buonasera, Presidente. Buonasera a lei. Io volevo dirle che quando la vedo sa cosa pensa, come diceva Giovanni Lolli, quando spreco, ma quando spreco. Guardo accanto a me Clio mi spreca benzina, si chiama Clio, mia moglie, lei proprio è uno spreco in tutti i sensi. Ma Presidente, come fa? Tranquillo, non si spreca niente qua, come io rispondo sempre a Lolli. Ah, non si spreca niente, allora si diverta, si diverta. La lascio divertire, buona serata. Onorevole, il presidente ci teneva a fare questo intervento. Certo, immagino. Può capire, può capire. Senta, l'ultima notizia. Io mi sono innamorata di Depardieu quando ha fatto la signora della porta accanto, ma penso che le donne italiane capiscano. Sì, chiederemo alle donne. Le donne italiane capiscano che cioè, la signora della porta accanto era un film furioso. E poi quando ha fatto Cyrano de Bergerac, sì. E poi mi piace questo che è un omone grosso. Anche il nasone è grosso. Sì, è tutto grosso. Però sì, è questa cosa. Beh, e poi è anche molto matto, devo dire. Ma non lo so, su questo non siamo d'accordo. No, ma non lo so, no, da discuterne. Gerard Depardieu, da discuterne, da discuterne. Per la seconda edizione ci sono dei candidati, quindi vi potete candidare. Vorrei candidarmi anch'io, scusate, se c'è posto, ci sono anch'io. Si ricandida sempre, onorevole. Lui si candida presto. No, lei non deve dire candidarsi perché oggi lui arriva sempre. Sì. Ah già, è vero, ho detto la parola. È una parolaccia, non si può dire, oggi proprio non si può dire. Senta, l'ultimo commento. Lei sostiene che l'8% dei parlamentari sono gay e che è il problema dei diritti civili in Italia è legato anche al fatto che molti esponenti della sinistra non fanno coming out come ha fatto lei. Sì. Diciamo, ci sono tra l'8 e il 10% dei parlamentari, tra l'8 e il 10% dei calciatori, tra l'8 e il 10% dei giornalisti. Ah, è una percentuale, radio, diciamo. Sì. Ok. Che tra l'altro, tra questo 8%, il 90% sono passati tutti da Cecchi Paone. Assolutamente. Sì. Questo beato lui, per carità. Beh, sì, insomma. Ognuno. Ma lui ogni cosa che c'è, lui dice, no, io mi sono fatto quello, sì. Ci tiene a dirlo. Bene. Vive alla grande Jackie Paone. Sì, mi sa proprio di sì. Va bene, onorevole, non le facciamo perdere altro tempo. Buona in bocca al lupo per le sue battaglie, che noi condividiamo appieno. La vera storia dei miei capelli bianchi, compratelo, è un libro veramente molto bello, io l'ho letto. E grazie per scorrevolissimo, tra l'altro, onorevole, quindi l'ho letto, l'ho mangiato praticamente. Sì. Ah, grazie ragazzi, chiamatemi altre volte che ci risentiamo, e siete molto bravi. Ma grazie a lei per la disponibilità. Faremo chiamare soprattutto dal Colle ogni tanto. Sì, anche da Silvio, vediamo chi si presenta prima, insomma. Ma c'è anche Ignazio che vorrebbe salutarla velocemente, un attimo solo. È da tanto che non ci vediamo, bellezza. Ah! Ammazza quanto è bravo, però sto Ignazio è un bravo ragazzo. È bravissimo, sì. Ignazio. Va bene, onorevole, la ringraziamo. Allora, la vera serie dei miei capelli bianchi, compratelo e noi ci vediamo dopo il prossimo pezzo. Let's excuse me, baby. No, yeah, you, baby. Back, ooh, you groovy, baby. In, let's make a movie, baby. Time, excuse me, baby. Let's, yeah, you, baby. No, ooh, you groovy, baby. Back, let's make a movie, baby. Time. It's Mr. Worldwide, Asian A, reporting live from Cape Canaveral. MK, big sight, this rap. Back, in time. You're and I wish the whole world would. Okay, I'm trying to make a billion out of 15 cents. Understand, understood, I'm a hope getter, mover, shaker, culture, barrier border, record breaker, won't you? Give credit where credit is due, don't you? Know that I don't give a number two. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. They can try if they want to. What pit saws a bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. And fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Ferrara Michelangelo e figli offre ai propri clienti l'ottima qualità dei suoi prodotti con una consulenza mirata ad ogni specifica esigenza di visione, proponendoti lenti progressive con trattamento riflesso 150 la coppia, lenti antiriflesso 60 la coppia, occhiali completi di lenti per bambini 50 euro e sulle lenti bianche senza nessun trattamento paghi solo la montatura. Le lenti te le regaliamo noi. Tutto questo fino ad esaurimento scorte. Da noi le marche più prestigiose, Prima Classe, Roberto Cavalli, Hugo Boss, Diesel e tante altre. Ci trovi in via Inguaggiato 16B, Termini Imerese. Telefono 091 811 3399. Ottica Ferrara Michelangelo e figli. Ottici per tradizione, professionisti per scelta. Ed inoltre Ottica Ferrara è convenzionato Fasi Fiat e Predi Medical. Ed oggi anche sconti Banco Posta. Cascino a Termini Imerese ti offre sempre iniziative promozionali del gruppo Expert. I prezzi più convenienti con il nostro vasto reparto di elettrodomestici e il nostro centro di elettronica, dove la tecnologia è sempre di casa. E ancora, casalinghi e fai da te nel nostro punto vendita in corso Umberto e Margherita. Siamo anche leader nel campo della termoidraulica. Trovi tutto per l'arredo bagno. Vieni a visitare il nostro showroom con una vasta e prestigiosa sala mostre in via Crisone 14 a Termini Imerese. Telefono 091 811 5155. Cascino, dove cortesia, convenienza e risparmio sono le nostre parole d'ordine. Panorama. Dolori articolari, dolori cervicali, mal di schiena, allergia. Adesso c'è Morfeo Notte, il primo punto vendita specializzato in sistemi di riposo. Prova gratis il benessere dei nuovi materassi Memory, Tempur, Pirelli, Dorelan. Morfeo Notte. Promozioni e omaggi ti aspettano in via Garibaldi 15, accanto Casabella Arredamenti, a Termini Imerese. Telefona per un appuntamento allo 091 811 31 53. Morfeo Notte. Dormire bene per vivere meglio. Panorama. Un locale rustico, caratteristico, ricavato in un'antica struttura del centro storico di Castelbuono, a pochi metri dal corso principale. Cucina tipica amadonita, con prodotti a chilometro zero. Pane casereccio cotto nel forno a legna. Pasta fresca con funghi di stagione. Carni allevate nel Parco delle Madonie. Verdure di campo cucinate con le antiche ricette della nonna. Dolce tipico testa di turco. Al Cicas non mancano nemmeno le svariate pizze fatte con farina di frumento siciliano a lievitazione naturale. Il tutto per ottenere un ottimo rapporto qualità-prezzo. E adesso che il tempo lo permette, ti puoi gustare le nostre specialità nell'accogliente giardino. Ristorante Pizzeria Cicas, via di Stefano 9 bis, Castelbuono. Gradita la prenotazione allo 0921 67 70 80. Panorama. Per vedere l'amore, conoscerlo, studiarlo, ma soprattutto ascoltarlo. Music in Love, per chi gioisce, per chi soffre, per chi ama e chi odia. Fabio vi aspetta tutti i lunedì e mercoledì alle 16 e il venerdì alle 21 su Radio Panorama, la radio che ti ama. Inoltre, visitate il blog musicinlove.ioblogo.com. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Don't it seem like I'm always there when it matters, but missing most of the other time, a terrible pattern. The rewards I see from working have made me an addict. There's way more people that want it than people that have it. I don't get it, I would hate to think I tricked them. They fall victim to my system, guess I sure know how to pick them. And I'm always a regret, yeah, I'm always a regret. And I always make it harder on whoever's coming next. It goes up and down, it's just up and down. She's crying now, but she'll laugh again, cause we on the rise and she here with us. And expensive shit just keeps happening and she loves it. And she stares at me like, who does this? And we hold hands while I pray that she's not the type to hold grudges. I'm wrong. Bad boys ain't no good. Abbiamo ascoltato un gran pezzo di Mary J. Blige featuring Drake, Mr. Wrong, che piace anche molto al nostro regista, lo vedevo ballare con la banana di fuori. Ma credo, ballano sì, tutti e balla anche Simone di Lost in Google, che abbiamo qui, già l'onore, ma di Lost in Google, che abbiamo qui al telefono. Ciao Simone. Ciao, ciao a tutti. Ma ciao. Sei ancora perso? Sì, sono perso in macchina in questo momento. Ah, quindi se digitiamo Simone in macchina dovremmo trovarti anche come immagine, credo, sì, giusto? Sì. Su Street View mi sa che ci sei. Sì, infatti sì. No, mi scuso se sentite insulti, clacson. No, ma non ti preoccupare. Ma figurati, li sentiamo. possiamo anche dirli noi. Se al vuoi, telefono. Se sì, ci metti alti come volume e li spariamo. Sì, metti via voce. Sì, sì, sì. Ecco, è chiuso. Allora vi spiego sì, cosa è successo. Spieghiamo. Allora, Simone ci ha chiamato, ha detto: ragazzi, ho la batteria scarica, sono in macchina, sto correndo in studio. Proviamo a fare l'intervista, se si stacca, niente, si stacca, e chiameremo un altro dopo? Dei The Jackal. No, quindi chiamiamo... Cioè, un assioma, se si stacca, niente, si stacca. Andrea ti lascia perché con... Perché ha la batteria scarica, la Simone. Voleva fare l'intervista, ha detto, sì. Ragazzi, non voglio farla, ma se si stacca il telefono, ovviamente rimanete... Vabbè, intanto abbiamo il tempo di spiegare cos'è lo Sting Google. Sì, cos'è lo Sting Google, lo vorremmo spiegare insieme a lui al telefono, lo spieghiamo noi. E oggi, cosa succede? Noi chiamiamo gli artisti, si stacca la... Noi spieghiamo la loro biografia e loro raccontano la nostra. Nostra, cioè facciamo al contrario. È al contrario. Sì, sì, sì, sì. Cosa succede? Simone. No, è l'altro Alberto, Marco. Alberto. Allora, cosa succede? Vi siamo spiego. Pazzi. Lo Sting Google cos'è? È una serie di YouTube. Sì, sì. Diciamo che hanno creato loro. Che sono i The Jackal, un gruppo di napoletani, sì, ragazzi napoletani. Ragazzi napoletani che hanno creato questi episodi, no? È come un telefilm nato, sì, su internet, che continua a vivere su internet grazie ai commenti. Ai commenti degli internauti. Cosa succede? Sì. C'è uno di questi protagonisti, che era proprio Simone, che ora richiameremo, che si è perso nuovamente nel web. Sì. Che su suggerimento di un'amica nel primo, sì, episodio, che è proxy, digita Google su Google e viene risucchiato dal computer. Ce l'abbiamo, succede? Di nuovo? Abbiamo Alberto, se non sbaglio. Alfredo. Pronto? Ciao, ciao, ciao, ciao. Ci senti? Eccoci. Allora, no, stavamo spiegando, avevamo chiamato Simone ed era caduta la linea, forse è stato risucchiato nuovamente da Google. No, lui capita che ogni tanto viene risucchiato da Google. C'ha lo smartphone e quindi sì, lo risucchia sicuramente. Sì. No, stavamo spiegando appunto che questa serie di YouTube, nata con grandissimo successo tra l'altro, è nata dall'idea di cercare la parola Google in Google. Di essere risucchiato in questo mondo parallelo, dire... sì. Sono 4 episodi, ma sta per nascere il 5º episodio. Tutto basato sempre sui commenti degli utenti, tra i quali vengono selezionati alcuni che servono per la sceneggiatura del successivo episodio. Esatto, come è nata l'idea? Se l'idea è nata, vabbè, è nata un po' da uno scherzo, perché praticamente dovevamo andare alla sede di Google e quindi ci immaginammo magari di sbagliare stanza e di trovarsi proprio a contatto, cioè magari in una stanza in cui c'era proprio il motore di ricerca. Certo, il mitico. Che sì. Cosa stai cercando? Così, con una voce, poi Google l'abbiamo sempre visto un po' come una divinità, no? Sì, che esatto. Sa tutto, esatto. Può tutto, dovunque, è dovunque, cioè è una cosa che... Per la nostra generazione, insomma, Google è veramente una cosa... Alfredo, l'idea di usare la sceneggiatura, cioè usare i commenti degli utenti come sceneggiatura degli episodi, cioè a che è venuta? È una cosa mangiatissima, lo capite? Che è una mangiatissima proprio... un termine sì, no, nel senso è proprio... Mangiatissima, non so cosa significa. No, nel senso che è mangiata cerebralmente, cioè è proprio strano. Diciamo geniale e fusa allo stesso tempo. Fusa, sì, un po' sì. Fumata. Guarda, noi abbiamo sempre avuto un rapporto di amore e odio per i nostri utenti, perché noi facciamo video da veramente da anni e anni. Noi vi seguiamo ogni da volta, sì. E ogni volta ci preoccupavamo poi degli utenti, come la prendevano qualsiasi cosa ci facevano notare, e gli sì. Utenti di internet stanno là proprio per, non dico per romperti, però insomma stanno lì proprio per commentare, hanno questo strumento e lo usano al meglio. Vox Populi. E quindi sì. Ti fanno notare davvero ogni piccola sfumatura, sì, sì, sì, sì, ogni sì. Piccolo... forse è tornato anche Simone. No, è tutto live, ecco. Arriva Simone. È tornato, sì. Simone è proprio uscito dal come modem. Casa Vianello, casa De Giaga. Senti, riaprire la porta. Ehi caro, come stai? Sì. Ti faccio salutare anche da Simone, che è tornato. Perfetto. Però, eccomi. Sei uscito da Google. Sei uscito dal traffico almeno, cioè. Sì, sono almeno liberato dal traffico. Perfetto. Sono uscito da Google Street View almeno. Sì. Senti, allora, sì. Abbiamo parlato un attimo con Alfredo delle puntate di Rossi in Google, ma parlaci della 5ª, cosa dobbiamo aspettarci? Tutto. Lo sapevo. Io ti avevo dato 100 euro, mi devi 100 euro. Allora, facciamo così, quanto dura? Quanto dura? Dura 20 minuti anche questa. Ah, come la penultima. Come la penultima. Sì. Come la penultima. Esatto, perfetto. Sì, con un gran finale, poi però non vi posso dire cosa succederà. Ma dai, dici almeno uno degli ospiti. Noi abbiamo il sentore che ci possa essere... Maccio Capatonda. Sì. Cioè, è una Vox Populi che gira in rete. Ce la confermi. Dai. Se poi me ne pento. Se poi te ne pento. Vabbè, ha risposto. Ha risposto. Ha risposto. Vabbè. Vabbè. Sì. È come se avessi risposto. A questo punto, a questo punto, Andrea, il mio conduttore, devi mangiare una banana. Perché l'ho deciso io in questo momento. Ma io la banana ce l'ho già, l'ho portata, ma non puoi vederla. Ma non diciamo dove. Non si può mangiare. No, no, no. Quella no, quella no. Senti, Simone, avete presentato voi, tra l'altro, la quinta, cioè la quinta puntata, ma l'avete presentata in anteprima al Voga, se non sbaglio? Sì, di Bagnoli. Abbiamo fatto l'anteprima, sì, per con concerto e sì, con l'ultima, l'ultima puntata. È stata molto bella come, è stata molto bella come evento. Ma com'è stato rapportarsi a gente, cioè che vedi, gente reale che diciamo conosciuta, che vi ha conosciuto su internet, e poi vederli dal vivo così tanti che vengono a vedere Una presentazione di un film amatoriale, diciamo. Sì, una bellissima esperienza, perché comunque vedi effettivamente le facce, sì. Oltre a leggere i commenti, in questo momento, cioè in quel caso abbiamo visto anche le facce, le reazioni, più che guardare appunto la puntata, insomma, eravamo fissi sul pubblico noi, che era lo spettacolo dall'altra parte, poi quindi vedere un po' anche se qualcuno si riconosceva tra i commenti lasciati soprattutto. A proposito, avete trovato chi ha scritto per la prima volta Proxy deve mangiare una banana? Quello sarà il ristorante, quello sempre un mistero, non si è presentato. Niente, non si, non si sa. Ma Iotopi come... è venuto Iotopi? No. Hanno ricevuto pure il commento di Iotopi. Sì, non è venuto neanche lui. No, vabbè, c'erano Frank Matano e Nirti. Grandissimo Frank. Senti, una domanda mi sorge spontanea, sì. Ma sì. In questo, diciamo, mestiere, mondo in cui vi siete calati da qualche anno, io il primo che ho visto ricordo che fu Io sono molto leggenda e veramente l'ho amato letteralmente, l'ho fatto conoscere a tanti amici che ancora come me non vi conoscevano, ma si cucca di più? Cioè, Io sono molto leggenda, sì. Secondo me si continua. Secondo me il finale è proprio uno specchio di quello che accade nelle vostre vite. Secondo me. Oddio, poi c'è l'altra parte della medaglia in cui siamo tristi, chiusi nello studio. A pensare ai nuovi. Però poi siete felici perché sapete che uscendo dallo studio accadrà quello che accadrà. Sì, si cucca di più. Senti, molti chiedono di vedere Proxy nuda. Noi ci associamo a questa richiesta. Ce la fate vedere Proxy nuda sul prossimo Lossing? È molto più bello il vedo non vedo della quarta, io penso. Ma guarda, noi non siamo. La cosa bella è che il mio amico sta conducendo e ti sta facendo questa proposta con alle spalle a un metro la sua fidanzata. Questa è una cosa meravigliosa. Secondo me supera l'immaginario. Sì. Anche un po' io ammetto che si cucca con la mia ragazza. E quindi vabbè, allora va bene. Allora siamo alla pari. Va bene così. Senti Simone, ma avete fatto una partnership ovviamente con Google per fare questi video? Perché poi ho visto che non c'entra questa cosa, ma dico una parola sugli artisti sono venuti a darvi una mano per realizzare questi video. Caparezza, poi c'è stato Giacobbo, sì. No, la partnership con Google, no, tutte le cane che sono state, sono tutte state le partecipazioni che abbiamo avuto. Ovviamente Caparezza, per esempio, abbiamo girato con lui il videoclip dei 99 Posse. Quindi è stata un'occasione. Tarantelle per Campà, appunto. Quindi è stata un'occasione per conoscerci, quindi ha partecipato alla seconda puntata, sì. Poi Giacobbo abbiamo contattato attraverso Caparezza, che ha fatto il video alla fine di Gaia. Sì. Quindi è un giro. No, questa cosa l'abbiamo fatto un altro giro. No? Non l'abbiamo contattato attraverso Caparezza. Cioè, il numero di Giacobbo, prima un attimo chiedergli una cosa. Sì, tramite Google, l'avete cercato tramite Google, sì, l'avete sì, trovato. Su pagine bianche. Sì, .it, Giacobbo, Roberto, sì. Esatto. No, comunque sono state tutte partecipazioni senza una parte così. Tutte spontanee. Io guarda Simone, voglio veramente avere la speranza che quando uscirà lo single 5 ci sia lo gnomo armato di ascia. Noi lo speriamo. Noi lo vogliamo troppo. Vogliamo rivederlo. Io ho la sua foto sul comodino. Lo gnomo armato di ascia. Sì. Senti, quando uscirà invece lo single 5? Lo single 5 io vi do una data, un giorno. Sì, e ci piacerebbe, vogliamo un sì, giorno, però non prenderci per il culo, cioè no. Se deve essere quello deve essere quello. Perché già ci hai fatto la trollata con dico questo sabato, no, non sarà di nuovo un pesce d'aprile, non li vogliamo fare più quelli, anche perché è luglio, non è il caso, sarebbe fuori, forse più fa fresco, magari se facciamo esatto abbiamo dei tempi andati del fresco, però dai, questo sabato con tutta con le dita incrociate lo facciamo uscire. Ok. Perfetto. Allora, questo sabato, questo è un altro. Ma a che ora? Vogliamo anche l'ora. L'ora non lo so, dipende a che ora ci svegliamo. Ma che ok, ma lo dai, decidiamo noi. Allora, mi mettete la sveglia alle 7:15 e se alle 7:35 non online vi vengo a pescare fino a casa, lo cerco su Google. Okay, ma dipende se c'è il segnale ADSL. Quando lui scompare da Google. Sì. Vabbè, io voglio, sono proprio curioso di sapere se riuscirà a uscire da Google. Vabbè, lo scopriremo sabato, lo scopriremo nelle prossime puntate. Sì. Alle 7:15 hai detto. No, 7:15 vi svegliate e 7:35 sì, tanto, mettete online. Okay. Il tuo numero l'abbiamo, quindi cominciamo a bersagliare. Ti svegliamo noi. Sì, sì. Quindi non spegnere il telefono. Non trollarci. No, l'avevo rimesso sotto carica. Va bene, allora sabato alle 7:35 tutti online per seguire il quinto attesissimo episodio di Lost in Google con Simone e tutti quelli della banda di The Jack. Che noi ringraziamo. Sì. Grazie Simone, grazie Alfredo per questo grazie. Bellissimo collegamento itinerante, tra l'altro. Sì, volo, tra la macchina e lo studio. Scusami, pure a me napoletano mi scappa. Vabbè, ti ringraziamo. Grazie ciao Simone, ciao. Ciao. They say that I'm dangerous, like everything I touch it falls apart. If I let a tell, would kill me now. Well, I'ma cut to the chase. I used to wish on a star, but nowadays I need space. Satellite, see the black shades, white chain, flashing lights. Never thought I could have felt this low in the highlights. What our feelings are still another day in paradise. Is there heaven for the forever 27? Could it be 3 years till I'm jamming with legends? I got thousands of fans, but I don't get the obsession. There's a nice guy inside, I guess I never met him. I could buy a fast car, but not even an airplane could seem to get me out of here. The pressure and stress are both dying to see the enemy, and the man in the mirror's looking at me like an enemy. Cause I'm living like a rockstar. I ain't afraid to die young. Cause I'll be living like a rockstar. I'll blow up a million miles away. Away, away. Oh, oh, oh, oh. Bang, bang. Oh, oh, oh, oh. Bang, bang. Mama always told me that there's someone looking over me. Think she met the guy with the camera trying to follow me. Be careful what you wish for, cause the truth's a little different. If the guardian's my angel, I see sun burning holes in me. They let me loose on the public, but I didn't prepare. I get shot up by a lens every time I appear. Put a star in the room, I swear it changes the atmosphere. Cause I'm a celebrity, cause someone get me out of it. Cause I'm living like a rockstar. Yes, I am. I ain't afraid to go die young. Cause I'll be living like a rockstar. I'll blow up a million miles away. Cause I don't care, I don't care. Take me there, na-na-na. I ain't scared, I ain't scared. Take me there, well, I'm gonna come to the chase. Cause I'll be living like a... A legend to your setting stone. For now you're just flesh and bone, just a little brother trying to build a home. I'll be the best to my dying breath. Brian Jones, a wise girl once sung, tears dry on her own. Fuck a moment of silence in my house. We shut the whole shit down for Winehouse. So I got something to say. Take aim, pull the trigger, cause you're never gonna blow me away. Cause I'm living like a rockstar. Oh, I ain't afraid to go die young. Cause I'll be living like a rockstar. I blow up a million miles away. Cause I don't care, I don't care. Take me there, take me there. Na na na, I ain't scared, I ain't scared. Take me there, well we can cut to the chase. Cause I'm living like a rockstar. Ed eccoci tornati in diretta dopo l'ascolto di Rockstar di Deppy featuring Brian May. Allora, stiamo per collegarci con il nostro carissimo amico Marco di filmbrutti.com, ormai presenza fissa come rubrica settimanale. Attendiamo dalla regia di sapere quando Marco sarà disponibile. Due minuti, ci fanno segno che fra due minuti sarà anche disponibile. Anche perché adesso abbiamo la rubrica vera e propria di Marco, quindi sì, sì, sì, sì, si è concretizzata proprio la rubrica. Abbiamo anche la sigla pronta. Credo proprio di sì, credo proprio di Avremo anche la sigla, quindi mi confermi? Abbiamo tutto oggi. Oggi abbiamo tutto. Guarda, c'è il regista che è di una felicità, un ormone che... L'ormone bussa al vetro dell'acquario, lo sta quasi infrangendo, devo dire. Allora, intanto... Attenzione, c'è un mi piace in più, solo uno. Cioè, dai. Ricordiamo appunto i contatti per rimanere in contatto con no, noi. Vabbè, sei ridondante, ridondante, ma oggi te lo posso anche concedere. Che sono facebook.com/ondainonda, twitter.com/ondainonda. Senza la L. Senza la L, quello di Twitter. E poi radiopanorama.info. E se volete seguirci su Twitter, seguite anche l'onorevole Paola Concia, che ormai insomma vuole stare sì, con noi qui. Abbiamo una nuova amica che è l'onorevole Paola Concia, rimasta molto soddisfatta dell'intervista che abbiamo poc'anzi effettuato telefonicamente con lei, che usciva dalla camera dopo la presentazione del libro e si è divertita con noi e con i nostri amici famosi come Berlusconi, la russa, Massaro. Ti faccio una domanda così, proprio da impreparato. Il regista sì. Vuole fare una domanda. Che si fa questo fine settimana? Ah, vuoi sapere che si fa questo fine settimana? Ah, quindi vuoi sapere cosa si fa questo fine settimana, non il prossimo. Sì, è vero, perché ancora non abbiamo dato gli eventi. Perché noi solitamente diamo gli eventi per il fine settimana, esempio. Ovviamente. Ma io mi diverto un sacco perché lui ha sempre sbagliato tutte le parole degli eventi a Palermo. No, è bellissimo quando c'è stato quel signore indiano. Sì, io c'ero, come no? Sì, e non riusciva. Gli è capitato una cosa con dei nomi improponibili e lui ha avuto dei problemi. Perché lui li cerca apposta, capito? Allora, combattere la sua dislessia. Venerdì a Taormina, scusa, dammi il piacere di dirlo anche se non è qui vicino, verrà Sting, che festeggia il suo 25esimo anniversario di carriera da solista. I prezzi sono modici: 150 sì. euro la poltronissima, 120 euro la poltrona, 90 la cave numerata, 70 la cave non numerata, gratis se lo scaricate poi dopo da YouTube. Esatto, alle 21.45 al Teatro Antica a Taormina. Ma invece, per chi vuole fare del bene, sì. C'è un gelato per Amnesty International alle 21, ingresso gratuito, gelateria ai portici. E poi... Perché il regista la faccia perché dirla? Lo so che è un bastardo. E poi, questo ovviamente... Perché i Las Congas ti piacciono? Aspetta, no, Amnesty International alla gelateria ai portici, via Piazza Armerina a Palermo. Alle ore 21, con ingresso gratuito. Sì. Poi invece a Palermo... Perché ridi? Perché lo so che ci sarà qualche cosa. I Las Congas. No, io volevo sentirti dire proprio Las Congas. Ah, pensavo fosse più difficile. No, no. Dai, Las Congas, è quasi italiano. Guarda lui che ride perché sta cercando qualcosa di difficile. Ci sono i Las Congas all'Arco Antico, alle 21, ingresso gratuito con... Sotto c'è qualcosa. Obbligatoria. Ecco. Sotto c'è qualcosa. Tintinette Swing Orchestra. L'ha detto. Ma è facile. Tintinette Swing Orchestra. Che è Tintinette in realtà, sì. Swing Orchestra. Ah, al Caffè 113. Al Caffè 113 a Palermo, ingresso gratuito. Che non è Palermo, 30. Perché è Casteldaccia. Provincia di Palermo. Però è Casteldaccia. No, però ho sbagliato qua, l'altra volta abbiamo anche letto la stessa notizia su un evento al 113 e c'era scritto che era a Palermo. Ma perché parla in abruzzese? È Casteldaccia, ragazzi. Quindi per chi vuole... Sì. Chi vuole passare il venerdì sera in maniera musicale, insomma. Poi ci sono invece alle Terrazze dei Candelai a Palermo Passepartout Live alle 20 con un ricco aperitivo, alle 22.30 concerto della cover band formata da Claudio Macca alla voce, Antonio Demma alla batteria, Vincenzo Noto al basso e Milo Varsalona alla chitarra. Inutile dire che il più famoso del gruppo è Vincenzo Noto. Certo, mi pare ovvio. Ovviamente, ovvio. Ovviamente. Se invece volete sentire qualche cover della buona musica anni 60, 70 e 80, al Teatro di Villa Castelnuovo, via del Fan 66 a Palermo, Diverbio in cover tour. La serata si apre alle 21.30 con i Diverbio, che programmeranno una rivisitazione dei brani italiani ed internazionali più famosi di oggi e di ieri. A seguire in musica gli anni 60, 70, 80, Beatles, Bee Gees, Rolling Stones, Vanilla Fudge, Pink Floyd, Cream e altri. 21.30, 5 euro. Quindi, insomma, ma dai, sì. E adesso ci fanno segno alla regia che siamo pronti e lanciamo la sigla di quello che è l'incontro fisso da diverse settimane: i film brutti. Vai. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. E abbiamo in linea Marco. Marco, che ne pensi della sigla? Subito qualcosa mi dici. Stupenda, ciao a tutti. Ciao Marco. Ma il minimo. Te la campioniamo e te la mandiamo. Eh sì, te la mandiamo. Sì, è fantastica. Poi esprime la sensazione, quello che è... diciamo il senso della popolizione che regna all'interno di noi. Sì, allora Marco, come sta andando intanto la tua avventura prematrimoniale? Perché ti sposi fra poco. Sempre più intensa, comunque diciamo ormai il traguardo è vicinissimo. Quindi... Eppure Marco, vedi, non si perde l'appuntamento fisso. Sì. Cioè lui vuole proprio vuole proprio redimere le persone. È una sua missione, va oltre il matrimonio. Senti Marco, oggi abbiamo avuto Zibba, Piotta, l'onorevole Paola Conce, ragazzi di The Jackal. Quindi adesso probabilmente veramente... alcuni di loro sono ancora all'ascolto, sì. Quindi vogliamo un super film brutto, perché ti stanno probabilmente ascoltando. Uno di quelli brutti brutti. Cosa ci proponi oggi? Cercheremo di accontentarli con il capolavoro action di Chuck Norris, che è Invasion USA. È il film con il quale Chuck Norris tenta di riscrivere la storia, ovvero lo sbarco nella Baia dei Porci, ma al contrario. Cioè, sono i cubani che sbarcano in Florida e casa per casa mettono sotto scacco, diciamo, gli Stati Uniti. È un film è distopico. Con un'ignoranza, veramente incredibile, con questi straccioni cubani guidati da un fuoriuscito del KGB russo. Che sarebbe Chuck Norris? Devastano... No, il russo è il nemico in realtà, il nemico di Chuck Norris, sì. Che praticamente guida questi straccioni cubani con tre jeep e due bazooka, distruggono una spiaggia e poi attaccano una cittadina per poi magicamente arrivare fino alle metropoli più grandi in 10 persone, non si sa come fanno. Il ruolo di Chuck Norris è chiaramente quello di salvatore della patria, e tra l'altro ha un conto in sospeso con questo Rostov, con questo russo. Infatti il leitmotiv del film è Chuck Norris che guarda le camere e dice: Rostov, è tempo di morire. Che è una cosa fanatissimo, tra l'altro. Super fanatico. E chiaramente il film è un susseguirsi di scene action veramente ignoranti, bazookate, che scoppiano. Chuck Norris che mostra tutto il suo repertorio di calci volanti, gomitate, imbattibile, chiaramente. Sì. Riesce sempre a comparire alle spalle dell'avversario in qualunque situazione. Anche in un deserto, Come, scusa? Anche in un deserto, dove si vedrebbe subito. Sì, assolutamente, esattamente. Vabbè, esattamente. Ma è Chuck Norris. Non puoi chiedergli altro, Chuck Norris. No. Il duello finale nel grattacielo, alla fine, è veramente qualcosa di epico. Per finire il suo avversario, Chuck Norris decide di sparargli una bazookata da 2 metri di distanza, tanto per andare sul sottile, insomma, no? Per ribadire ancora una volta la sua superiorità. Beh, Invasion USA è un film incredibile che regala momenti esilaranti praticamente senza sosta. Quanto dura? Il film? Sì. Ma dura 110 minuti, mi pare. Insomma, un'ora e 50, sì, esatto. Meno di 2 ore, sì. E poi anche la valenza è importante, perché c'è la vendetta personale, che è un concetto più caro a Chuck Norris, viene estesa a livello nazionale con praticamente il salvataggio degli Stati Uniti da parte dall'invasione dei cubani. Guarda, già solo l'idea dell'invasione al contrario della Baia dei Porci è una cosa di stupendo. Sì. Veramente è un'idea da Oscar. Penso che Ser Piotta ci sta ascoltando, già è pronto a visionarlo stasera, è auto insomma pulirsi. Senti, allora ricordiamo il titolo, così insomma i nostri ascoltatori se lo possono andare a cercare. Invasion USA, regia di Joseph Zito, 1985. Fantastico. Io ho visto Il Bosco 1 dopo aver parlato visto? Qui. Sì, com'è? Diversi pezzi, senza parole. Io ridevo perché pensavo ai commenti di Marco mentre lo vedevo. Cercavo di distaccarmi. Ho detto, dai, guardalo così, imparzialmente. Non ce l'ho fatta. Ridevo dall'inizio alla fine. Fantastico. Marco, noi ti lasciamo ai tuoi impegni. Sappiamo che ne hai tantissimi. Non so quando ci risentiremo perché poi andrai in viaggio di nozze. Ma soprattutto quando ti sposi? Sabato. Questo sabato. Sì. Allora, esce lo Sting Google. Allora auguri. Quando esce lo Sting Google? Perché i ragazzi di The Jackal ci hanno anticipato che lo uscirà sabato. Anzi, noi li abbiamo costretti. Abbiamo deciso noi l'orario in cui uscirà. Alle 7:35 del mattino lo troverete su YouTube. Va bene, allora auguri. Buone nozze. Tanto, auguri grazie alla tua lei. E grazie sempre di partecipare con grande simpatia. Grazie Marco. Allora, ovviamente scaricatevi Invasion USA. Noi vi salutiamo. Vi salutiamo. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, cioè Zibba, il Piotta, l'onorevole Paola Concia, i The Jackal e ora last but not the least Marco di filmbrutti.com. È stata una gran puntata, 2 ore e mezza, grazie per chi c'è stato, fanculo a chi non c'è stato, ci vediamo mercoledì prossimo sempre da qui. Lui era Andrea Massaro, lui era Antonio e lui là dietro era Alessandro, e grazie al condizionatore bastardo. Ciao.